Ciao, sono uno spaghetto di riso integrale ricco di spirulina. Cerco una buona forchetta con cui arrotolarmi sfrenatamente. Con gli spaghetti di riso integrale Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E cari amici di Runtime, benvenuti come ogni giovedì sera all'appuntamento spazio temporalmente dislocato che ci porta indietro nel tempo, in un'epoca in cui eravamo più giovani, avevamo più capelli, eravamo forse anche biondi, magri e a volte anche affascinanti, ma questo è perché ci piace ricordarlo così. Oggi che siamo dei vecchi che rotolano, diciamo, insomma, è sempre un bel passaggio indietro nel tempo. Vi ricordo che Quando eravamo futuro lo potete trovare su Facebook cercando Quando eravamo futuro, ovviamente troverete il gruppo e vi iscrivete, potete conversare con noi, ogni tanto linkiamo cose anche carine, tra l'altro oggi ce ne stavano un paio molto simpatiche, dopo ne parliamo, ma soprattutto potete anche scriverci a quando eravamo futuro @runtimeradio.it, che non abbiamo ancora aperta la mail, però cioè l'abbiamo aperta la mail ma non l'abbiamo ancora consultata, ci sarà sicuramente qualcosa, oppure gruppo Telegram telegram.me/dirette runtime, dove naturalmente potete insomma interagire insieme a noi, se no runtime.it/diretta, dove adesso c'è la chat e vado a controllare se c'è qualcuno. Do il benvenuto e il buonasera a Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, buonasera. Senti, ma le sfittinzie dove le hai lasciate? Le mie sfittinzie che sono mia moglie e mia figlia sono al piano di sopra adesso. Ok, bravo, bravo, giusto. Sono vecchio. Bravo, bravo, giusto. E Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti e grazie a chi ci ascolta con pazienza. Arrivati, cosa siamo? La quarta puntata? Terza. Sarebbe sì, terza. La quarta, in realtà sarebbe la quarta, però già è la terza, sì, no? Ufficialmente. Terza ufficiale con l'episodio zero, come il mandato zero. Bravo, esatto. Il famoso mandato. Cioè, c'è una puntata che non conta nel conteggio delle altre puntate. Insomma, salutiamo, c'è Berlusca in chat. Immagino che questa sia la puntata proprio adatta per tutto questo, cioè giusto. E salutiamo Davide Gatti, chiaramente. Eccomi qua, buonasera. Io le mie sfittizie invece le ho liquidate, perché di solito una abita qua con me e condividiamo questo spazio, ma quando sono in live lei viene segregata altrove, poverina, e sono qua da solo, ma qua con voi. Benissimo, e nel frattempo l'Italia sta vincendo 1-0 con l'Irlanda del Nord, giusto per insomma. Come mai tua moglie scrive salta la diretta? Salta la diretta, ragazzi, io non lo so, è un problema, ho aperto un ticket su Azzurra Cast, che c'è questa cosa che va a intermittenza allo streaming, non dipende da noi, dipende dal loro server. E ovviamente non c'è una volta che noi non troviamo un servizio a pagamento che funzioni semplicemente per il fatto che è a pagamento, perché fosse gratuito uno comunque eventualmente, se trovate difficoltà domani poi trovate il podcast, nel frattempo fate finta che state ascoltando quello che state ascoltando e godetene ugualmente. Per capire di che cosa stiamo parlando in questa puntata facciamo una piccola cosa. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro di una città positiva, ottimista, l'amaro della vita di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. Allora, non parliamo di Amaro Ramazzotti, anche se 170 anni adesso saranno più di 200, a meno che non esiste più l'Amaro Ramazzotti, che non sono titolato per dirlo, e questo meraviglioso spot che comunque è il simbolo di un momento, di una fase storica del nostro paese e di una Milano che veniva scoperta da tutto il resto d'Italia come un fenomeno anche culturale da un certo punto di vista, in realtà poi nasconde anche la proto-retorica del berlusconismo, di tutto quello che, insomma, il bene e il male che è uscito fuori da quegli anni lì. Roberto Domaiuolo. Eccomi qui, però prima di cominciare io ti chiederei alla Fantozzi maniera, chi ha fatto gol? Non lo so chi ha fatto gol, perché vedo il risultato, perché nel frattempo stavo guardando la chat e mi sono distratto, quindi non l'ho visto il gol, ma te lo e dico, allora, ti tengo aggiornato. Grazie, sei gentilissimo. Quindi abbiamo ascoltato la pubblicità dell'Amaro Ramazzotti, e in realtà questa espressione Milano da bere nasce proprio dalla pubblicità dell'Amaro Ramazzotti, che è stata fatta da un grande pubblicitario italiano che purtroppo è scomparso, che si chiamava Marco Mignani, e appunto, come abbiamo ascoltato, fra le altre cose diceva: Milano che rinasce ogni mattina, che pulsa come un cuore, positiva, ottimista, efficiente, Milano da vivere, da sognare, da godere, questa Milano da bere. Voglio fare un'altra piccola citazione, questa volta canora, della fantastica canzone di Lucio Dalla, che appunto si chiama Milano, che dice: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. La metropoli che ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Queste poche frasi, adesso durante questa serata magari ne parleremo, però sono veramente rappresentative di che cosa vuol dire questa espressione Milano da bere. In generale, quando si utilizza questa espressione, si indica la Milano degli anni Ottanta, una città che era al centro della vita italiana per molti motivi, in particolare per la percezione di una città che godeva di un benessere diffuso, una vita lavorativa e sociale molto vivace, quello che chiamavamo il cosiddetto rampantismo, il fenomeno degli yuppies o yuppies, a seconda di come lo volete dire. Non lo so, poi lo chiediamo a Barbarossa, che ci ha fatto una canzone su sta cosa. Esatto. Beh, anche i film, poi vedremo. E lo sviluppo di diversi fenomeni sia culturali che di moda e di costume. Quindi, ovviamente, questa espressione non va intesa tanto come un riferimento all'amaro o all'alcol, chiaramente, ma come la città di Milano in un determinato periodo storico. Probabilmente anche non solo Milano, ma un'intera area geografica. E possiamo fare un parallelo, una cosa molto simile era accaduta con riferimento alla dolce vita di Roma, questo ovviamente nel dopoguerra, negli anni 60, e quindi si parla di un nuovo cosiddetto miracolo italiano, per quello che alcuni per la città che alcuni consideravano la cosiddetta capitale morale del paese. Una curiosità è che il concetto di capitale morale è nato da un giornalista napoletano, quindi non era certamente di parte. Autoreferenziale, dici. Esatto. Quindi abbiamo detto, generalmente si riferisce agli anni Ottanta e si è soliti identificare il suo termine con l'inizio degli anni 90, quindi in particolare con lo scandalo di Mani Pulite, che di nuovo avrà il suo fulcro a Milano. Ci ricordiamo tutti Brosio, intervistato da Emilio Fede su Rete 4. questi più altro anni... Mazzulato, più che altro Mazzulato. No, vai più indietro. Se vi ricordate, esatto, all'epoca c'era la TV delle ragazze, facevano l'imitazione. No, vai più indietro. Sì, vai, c'era, vai, c'era, vai... era Coso che la faceva, come si chiama? Guzzanti. E mi ricordo la scena mitica che aveva in mano un joystick del Commodore 64. Esatto, che lo governava. E, sì, esatto. E lo guidava col joystick. Che lui lo voleva che andasse sotto il tram, così faceva più audience. Esatto. Con il classico tram milanese dietro, insomma, sì. La zona la conosciamo bene, oltretutto, esatto, a due passi da Piazza Fontana, dove invece... a due passi purtroppo dalla purtroppo famosa, per tristi motivi, Piazza Fontana. Questi anni coincidono con i cosiddetti anni del craxismo, rampantismo, craxismo, quindi con il successo mediatico del segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi, che aveva la sua base proprio a Milano in un ufficio famosissimo che si affacciava su Piazza del Duomo. E ricordiamo, erano gli anni del pentapartito, Democrazia Cristiana, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani, del cosiddetto CAF, quindi Craxi, Andreotti e Forlani, per quanto attiene alla politica. Se vogliamo parlare di un po' più di costume, in quel periodo c'è stata una forte attenzione all'apparenza, all'abbondanza, si potrebbe dire anche alla leggerezza e alla frivolezza. Alcuni ritengono che sia stata una reazione alla pesantezza che in alcuni momenti si è registrata negli anni 70, perché comunque ci sono state crisi e tensioni, abbiamo avuto l'inflazione, c'erano fenomeni terroristici, i cosiddetti anni di piombo, che sì, sono continuati negli anni 80 con alcune colpi di coda anche molto, molto violenti, però la percezione, insomma, è stata diversa. Io ricordo che negli anni 70, perlomeno a Milano, era molto difficile uscire la sera, c'era questa cappa veramente, veramente pesante. E negli anni 70 soprattutto c'erano state tantissime tensioni sociali che comunque negli anni 80 si sono un po' allentate. Questi eccessi che vi dicevo, apparenza, abbondanza, leggerezza e frivolezza, hanno fatto che alcuni chiamassero questi anni come i cosiddetti anni di plastica, che in parte probabilmente ha un senso, insomma, definirli così. Quindi Milano raggiunge uno status che è addirittura riconosciuto internazionalmente, di una città di respiro internazionale, sede di multinazionali, ospita molti stranieri che verranno a vivere per molte cose, anche per la moda, perché Milano diventerà anche una capitale mondiale della moda, quindi insidiando, se vogliamo, il primato che era ed è ancora in un certo senso di Parigi. Le persone cominciano a giocare in borsa. Io ricordo i collegamenti di Everardo Della Noce da Piazza Affari, che parlava in maniera discorsiva di concetti molto complessi come appunto la borsa, e quando la borsa scendeva diceva ci sono delle piccole prese di posizione per non spaventare, ma era veramente simpatico. Sono gli anni del cosiddetto edonismo reganiano, gli anni di Margaret Thatcher, anni in cui soprattutto a Milano tutto appariva possibile, del futuro ci sembrava comunque roseo. E sono gli anni della scalata al potere di un immobiliarista, Silvio Berlusconi, che cavalcherà l'onda delle TV commerciali, cominciando nel 1980 trasformando Telemilano 58 in Canale 5 e più avanti con l'acquisto, mi pare, da Rizzoli di Rete 4 nel 1984, con il furto, tra virgolette, di Mike Bongiorno dalla Rai, che quindi verrà a Canale 5, con molte altre trasmissioni, tra virgolette, moderne, che alla Rai non sarebbero mai potuto andare, che cominceranno. Egli fonderà un vero e proprio impero e arriverà a scalzare la televisione pubblica dal monopolio degli introiti pubblicitari, quelli famosi con Publitalia. C'è una bella serie televisiva che penso avete visto su Sky, che appunto parlava di Mani Pulite, ma si intravede appunto anche la nascita di questo impero delle comunicazioni a seguire dell'impero immobiliare di Silvio Berlusconi, che ci abita e conosce molto bene, Milano 2, che è ancora una zona bellissima, ma che quando fu costruita era davvero di uno standard che non si era visto ancora, e poi Milano 3 ed altre cose. Quindi la città cambia, nasce la cosiddetta movida milanese con i famosi aperitivi, che in parte comincia a sostituire i vecchi locali storici che sono andati per la maggiore fino agli anni 70, perché ovviamente Milano è sempre stata una città importante, aveva una serie di locali, ma c'è un profondo cambiamento, quindi questi smettono di andare e ne nascono altri molto più giovani. Una cosa importante che descrive questo periodo per quanto attiene il costume è il romanzo e il film Sotto il vestito niente, che sono, anche se alla lontana, ispirati a un omicidio che ha fatto molto scalpore a Milano, che è quello del playboy Francesco D'Alessio, che è stato ucciso dalla modella americana Terry Broom. Questa è una cosa che magari i più anziani ricorderanno molto bene, che appunto fece parlare molto, che ha dato l'adito l'ispirazione a questo film. Molti ragazzi pieni di soldi del padre, chiaramente, e anche molte ragazze giovani che volevano fare le modelle e altre cose, che in qualche maniera sono state calamitate in questa città. C'è stato anche ovviamente tanto alcol, tanta droga e le cose che abbiamo visto nei film, di cui magari parleremo, quindi andare in barca d'estate e Cortina d'inverno. Nelle case arriva il programma Drive-In col Berlusca su Italia 1, vediamo le maggiorate cameriere dei fast food in prima vista, vediamo il lato B di Tini Cansino, che veniva inquadrata da una telecamera posta in basso proprio sul sedere, che era una cosa divertente, cafona al massimo, ma che non si sarebbe, perché non c'era altro poi da vedere comunque, cioè nel senso non è che Beh, intorno a mezzanotte o l'una di notte c'erano delle trasmissioni su nel senso che di Nick Ansino, cioè non è che c'era poi tutto sto tu parli di Umberto Smaila, immagino dell'Umbertone. Sì, quelle, ma anche nelle TV minori c'erano anche cose un pochino così. Beh, sì, sì. No, beh, quelle sì. Maurizia Paradiso, fanno un nome. Ma forse quella è venuta dopo, però. Beh, mica tanto, però. Vabbè, non tanto. C'era Selene, se vogliamo dirla tutta, che trasmetteva nelle pubblicità le videocassette XXX nelle TV private milanesi, ma. Non è ancora presto, sono solo le 9:15 per chi ci ascolta in diretta. Sì, ma poi secondo me è più focalizzato magari in una cosa specifica, perché io ce la farei una puntata proprio sul trash televisivo e anche la televisione pseudo erotica, no? Cioè, nel senso, comunque c'è proprio. Beh, anche allora lo faremo. E anche i ragazzini che si guardavano le pubblicità delle videocassette censurate perché non c'era altro. Assolutamente, comunque, volentieri. Assolutamente, lì c'è veramente da dire, tanta roba. Quindi torniamo a noi. Quindi nascono i fast food, che cominciano appunto a Milano, almeno nella loro accezione anglosassone, se vogliamo così, e si crea un fenomeno vero e proprio di moda e cultura giovanile, che è quello dei paninari. Quindi fra piumini, stivali, fibbie, eccetera, che magari di cui parleremo dopo. Però va detto che i primi incontri di questi paninari avverranno di fronte a un bar italianissimo, che è nella piazzetta Liberty, che immagino alcuni dei miei colleghi di stasera conoscono, che si chiamava Il Panino. Quindi non nasce né davanti al Burghi né davanti al McDonald's, che ancora non c'era, bensì davanti a questo bar che era molto italiano. Poi si sposterà col tempo in Piazza San Babila davanti al Burghi, che poi diventerà McDonald's come luogo principe tra virgolette per fare queste cose. Nascono i primi cinema multisala, l'Odeon in centro, le discoteche molto famose a livello mondiale, quindi c'è l'Hollywood in Corso Como, il Killer Plastic in Viale Umbria, l'Amnesi, e nasce un fenomeno che in Italia non c'era mai stato, che era quella della selezione alla porta. Io mi ricordo che in alcune discoteche, soprattutto quando andavi disaccoppiato, se eri uomo, rischiavi assolutamente che non ti avrebbero fatto entrare. Era una cosa che prima non esisteva. Comincia qui. Quindi questi sono dei, diciamo, tutte mode di cui avremmo fatto volentieri a meno comunque. Esatto. Quindi questa cosa probabilmente sì, però. Beh, in generale di tutto. Io mi permetto di fare una battuta. Sentire Tomaiuolo che parla di Milano è un po' come sentire Bragagnolo che parla di Apple, insomma. Mi sa di sì, la stessa inflessione. Ho avuto un po' la stessa percezione. Guarda, io sono napoletano di nascita, la mia famiglia lo è, e io mi sento napoletano, però ti posso dire che io considero Milano casa mia. Certo, cioè, ma è giusto che sia così. Io che ho il papà milanese, ma sono nato a Settimo Milanese, per esempio, del 50% delle cose che hai detto non sapevo neanche che esistessero. Anche perché ero di paese, io fino agli anni 80 ero piccolo, cioè avevo 10 anni nell'80. Sì, ma poi noi eravamo dei nerd, eravamo tagliati fuori. Sì, a parte nei nerd che eravamo tagliati fuori, ma guarda che comunque all'epoca le distanze erano importanti. Cioè io che ero a Settimo Milanese, che adesso praticamente la consideri già Milano, all'epoca c'erano i campi di grano, fossi, le mucche. Sì, lo dicevamo l'altra volta. Ammazzavamo il maiale, facevamo il salame, cose di questo tipo. Cioè, quindi. Ma anche adesso è abbastanza fuori, è abbastanza distante. Sì, no, ma dico, era proprio vita di campagna, se vuoi. Dove sì, sì, sì, no, no, era, ma infatti l'abbiamo detto di campagna. L'abbiamo detto anche l'altra volta. Comunque vi permetto in chat, saluto Morris, Girasole, vabbè, poi vedo sempre Paris da Bar, Lobby Frontali, chiaramente Pier Gym, e vabbè, poi c'è Angela soprattutto, che è Paninaro. Paninaro non poteva mancare. No, intervengo solo e poi ridò la parola giustamente a Roberto che sta facendo questa meravigliosa introduzione. No, è finita l'introduzione. No, però cioè, alla fine io sono qui un po' per compensare, no? Cioè, nel senso, compenso, perché c'era quel famoso comico italiano che diceva che in realtà l'unica cosa bella di Milano era il treno che torna a Roma, cioè. Però in realtà è affascinante perché, ecco, come abbiamo fatto magari come discussione in, fra di noi, no? A livello redazionale, c'è questo momento, al di là del grande impatto sociale, economico e anche politico, no? che c'è stato a Milano in quell'epoca, e il fatto che nascevano tutte queste televisioni, anche con il berlusconismo e via dicendo, cominciavano ad uscire fuori tutta una serie di elementi, così come diceva appunto Roberto prima, che hanno fatto entrare un certo modo di dire, un certo modo di fare, un certo modo di atteggiarsi, un luogo comune anche a livello globale, cioè nel senso anche a livello nazionale. Quindi alla fine certe frasi, certe espressioni, il paninaro stesso, no? Che magari noi da Roma o da altre parti magari non identificavamo correttamente come tipo di soggetto, però poi alla fine ne scimmiottavamo le mosse, il vestito, il modo di parlare, il gergo, no? Che poi alla fine, se in quel periodo molto concentrato, perché poi alla fine andiamo a finire pure a parlare un po' anche di questo, in realtà poi alla fine è esploso in mille manifestazioni, dal punto, come poi lo affronteremo, dal videogioco alle canzoni, alla televisione, a tantissimi modi di proporsi. Quindi alla fine abbiamo conosciuto una serie di personaggi anche televisivi e cinematografici che fino ad allora magari erano stati messi, diciamo, in secondo piano, no? Prima magari nel cinema e nella televisione c'era il romano, c'era il toscano, il milanese in maniera molto, molto inferiore, no? E invece questa è proprio stata una sorta di riscossa quasi, no? Perché poi alla fine Drive-In stesso alla fine ha tirato fuori molti luoghi comuni, molte cose, molta comicità, però che era proprio tipicamente milanese. Poi alla fine anche il tizio immigrato che prendeva 18 all'università è comunque, certo, certo. È comunque autorialmente milanese come cosa, cioè, sì, sì, usciva dal derby di Milano, poi tutta la comicità di quel periodo lì, insomma, era assolutamente milanese. Erano tutti al derby, anche sì. Massimo Troisi e il gruppo della Smorfia, quindi con i suoi due compari Lelo Arena e come si chiama De Caro, erano di casa lì. Buona parte di queste cose comunque venivano a Milano perché c'erano i soldi a Milano. Adesso è inutile nasconderselo. Legarlo, è vero, certo. È stato, infatti, è indubbio che quel periodo lì sembrava, nella mia memoria, come ripeto, io ero piccolo, quindi tra virgolette l'ho vissuto non capendolo quello che vivevo, l'ho rielaborato dopo, ma la cosa che mi ricordo di quel periodo degli anni 80, tra l'80 e il 90, quindi quel periodo che hai detto fine anni 70, inizio anni 90, prima di Mani Pulite, è come se a Milano fossero tutti ricchi, anche quelli poveri erano ricchi, cioè tutti erano ricchi, avevano tutti i soldi, non so come mai, ma era così, cioè non era una... Sì, era anche più accentuato il fenomeno di chi effettivamente non era ricco, faceva di tutto per sembrarlo, perché sì, esatto, si sentiva in minoranza, tantissime minoranze. Beh, però questa era una cosa tipica degli anni 80, un paese che in qualche maniera ha vissuto un'ondata di ricchezza, tra l'altro apparente, no? Perché poi dopo l'abbiamo pagato negli anni successivi, ha segnato l'Italia nel frattempo, ha segnato Ciro Immobile, grande Ciro, gli vogliamo bene. E vabbè, niente, Ciro! Alla fine però volevo dire una cosa perché poi alla fine questi luoghi comuni, anche questa comicità che ne esce fuori, quindi mettiamo, no, il commendatore là, il tizio quello milanese con i baffi, sì, che c'aveva sempre il servo negro, no, che alla fine cioè faceva ridere, no, quello zibadrone Ma che Zampetti? Sì, che era, esatto, che era un becerume incredibile, no, se tu ci pensi, no, nel senso, alla fine però alla fine faceva ridere, cioè nel senso, tu pensa a farlo oggi? Oggi sarebbe assolutamente improponibile, però dall'altra parte alla fine tutto questo fenomeno, anche i paninari e roba del genere, hanno comunque fatto uscire un qualunquismo generalizzato che alla fine è diventato forse anche un problema, no? Nel senso sì, penso proprio di sì, è vero, questo è vero. perché poi dopo alla fine, ragazzi, su quello si veniva da un periodo veramente pesante, che sono stati gli anni 70, cioè è anche normale che i ragazzi, la società si volesse un po' diventare più leggera, cioè lo so, però poi la televisione del Berlusconi su questa cosa ci ha costruito una cultura, tant'è che poi alla fine, cioè, gli effetti ce li portiamo dietro oggi. È vero. Come si chiamava la trasmissione di Ambrangiolini lì, che non era milanese, però voglio dire, il non è la Rai, non è la Rai. Sì, sì, era di Berlusconi. Era di Berlusconi. Quella trasmissione non parlerei, perché ragazzi ci sarebbe da dire veramente. Lì c'è. Hanno messo un sacco di minorenni seminude. Volete, lì quando faremo lo speciale, posso chiamare uno che la faceva, quella trasmissione. Anche io c'ho la moglie di Luca che fa, era proprio fissa nel Rai. Quindi. Sì. In realtà è un po' una cosa anche lì, ecco, come dici, forse quel, per quanto innocente potesse sembrare, invece secondo me è stata l'estremizzazione di un, cioè è forse stato il punto nella decenza, ancora è stato il punto più basso, poi dopo da lì in poi è stato un punto di non ritorno, ecco, esatto. Ah, sicuramente. Voglio sentire l'intervista, che secondo me è molto interessante, ci può dare qualche spunto se ce l'hai. Certo, va bene, partiamo da quella. Alvaro Paninaro è una persona normalissima, un ragazzo normalissimo, che si veste in un certo modo. Fammi un esempio, quanto spendi un Paninaro al mese? Quanto spende al mese, a seconda di quello che compra, non so, un paio di occhiali 100.000, Moncler 300.000, se vuoi lo Scott 600.000, secondo, scarpe, poi lampade, gli spendi 100.000 lire di lampade. Lampada per abbronzarsi? Esatto, io no, perché ne spendo di meno, perché non è negro, quindi ne spendo poche, però diciamo che costa. Chi vi dà i soldi? I soldi ce li danno come al solito i nostri genitori, ma è logico che non bisogna approfittarne troppo. Facciamo la hit parade delle ambizioni del Paninaro. Ma non so, diciamo, prima sono farsi tante ragazze, poi la moto, vestirsi bene, cioè comprare lo Scott, e alla fine non so, avere il Renegade, ecco, come macchina, la Jeep fuori strada, penso che sia uno dei massimi. Se non sbaglio, tu dicevi prima, sottolineavi il fatto che siete apolitici. Sì, io mi dichiaro apolitico, non penso, non faccio parte di nessuna associazione politica. Così. Gli altri? Io francamente non faccio parte di nessuna associazione politica e né ho intenzione di entrarci. E questo un po' la... siamo rovinati, insomma. Eh sì, alla fine, cioè, detto, secondo me non avevo neanche idea di che cosa fosse, cosa volesse dire la parola politica. Esatto. Secondo me. Se noi però vogliamo analizzare un attimo questa intervista, mi vengono in mente due cose che sono, come posso dire, un po' all'opposto, no? Uno è la stessa riflessione che ho fatto con Michela una volta che ci siamo rivisti su Replay, La notte della Repubblica di Zauli, no? Non so se avete presente la trasmissione. Certo, bellissimo. Che era un programmone, no? E alla fine, quando tante volte capitava, c'erano delle interviste delle persone degli anni 70 e 80, tu sentivi comunque anche, voglio dire, le persone normali, no? Quelle le più normali, una proprietà di linguaggio, con una capacità di intercalare, di creare anche parentesi, sottintesi e via dicendo, quindi un costruire, diciamo, in tempo reale, diciamo, una frase abbastanza articolata, e ci siamo rimasti un po' così, cioè nel senso, oh porca miseria, cioè, vedi che la gente comunque era più, come posso dire, abituata, forse perché leggeva di più, magari si studiava. No, era la scuola. Era la scuola, comunque era la scuola, esatto. E la stessa cosa, pur essendo questo l'inizio della fine, come dicevamo un poco, esatto, la stessa cosa a sti ragazzi, che comunque, se io prendo magari l'intervista del milanese imbruttito di oggi, questi sono professori universitari. Il contenuto è lo stesso dal punto di vista, esatto. Però lo dicono peggio, perché? Esatto. Perché quello che parlava prima è diventato il loro professore. Bravo, forse non è così, perché oggi quello dice, a cosa pensate? Pensiamo a farci più ragazze possibili, esatto. E adesso c'è, cioè, quell'altro intervista dove scopare, capito? Cioè, nel senso, esatto. Cioè, alla fine è la basicizzazione del linguaggio rispetto a, come posso dire, al concetto, che il concetto magari è il medesimo, che poi voglio dire, come dice Roberto, ci sta anche che c'è stato un alleggerimento, no? Però ecco, diciamo che il modo in cui è stata cavalcata questa cosa, che è diventata sistemica, ma guarda che L'impoverimento del linguaggio è una cosa molto negativa da tutti i punti di vista, e non solo, adesso, senza voler fare delle analisi troppo complicate, perché comunque vogliamo mantenere un tono anche di intrattenimento. Sì, esatto. Però ha delle grosse conseguenze. Avere un vocabolario ridotto e non riuscire a esprimersi bene ha delle pesanti conseguenze a livello di utilizzo del cervello, cioè non è un fatto positivo da nessun punto di vista. No, infatti. Lo so, però è un fatto che si vede, cioè purtroppo sì, è assolutamente. È come è vero l'impoverimento della scuola, ma anche se voi se vi ricordate, cioè, quando ascoltavate, adesso non c'entra con questo discorso, ma quando ascoltate delle interviste degli anni 60 anche, ma degli anni 60, quando si intervistavano un ragazzino per la strada e senti parlare, ti rimanevi strabiliato, diciamo, certo. Come parla questo, ragazzi? Adesso non è una conversazione, è una serie di... Ma guarda, io alla fine l'ho detto. A parte che sto notando, sto notando adesso veramente che sta spopolando ovunque la bestemmia. La bestemmia ai miei tempi era molto limitata, non si sentiva, c'è un certo rispetto, nonostante dovevi andare in certi ambienti. Vabbè, ho capito, però ambienti, diciamo, adesso il ragazzino che non sa neanche cosa sta dicendo, praticamente ha un intercalare, al posto di dire la virgola, il punto e due punti trattino, è una bestemmia, ci mette i porchi, ma proprio pesanti. Noi magari diciamo cazzo, perché l'hai detto tu, perché è diventato un intercalare, ma non sa più neanche cosa vuol dire. Esatto, sì, lo so, però suona malissimo, cazzo. Cioè, brutto sentire questo tuo ragazzino. Beh, bello non è. Cioè, c'era anche un rispetto maggiore verso sicuramente gli adulti in quel periodo. Adesso non c'è proprio più, zero totale. Non c'è più quel rispetto che c'era una volta, e più torni indietro nel tempo più vedi questo rispetto. Beh, sia nel parlare e sia nell'atteggiamento anche. Magari non ce lo siamo meritati, però va anche detto. Oddio, addirittura. Beh, riprendo quello che ha detto Carlo, i genitori siamo noi e i professori siamo noi, quindi probabilmente se qualcosa... Sì, più che noi loro, cioè io non ero quello lì, mettiamo puntini sulle... Nemmeno io si fa... Ma io ho delle registrazioni e dei video che dicono il contrario, poi dopo pubblichiamo. Voglio vederle adesso, diamo questo pathos. Sono abbastanza sicuro che non esistano. Basta, però, siamo troppo seri, ci vorrebbe una pausa musicale. Ci vorrebbe una pausa musicale. Io partirei con Davide Gatti. Va. Davide, introducici, spieghici. Noi in due episodi fa avete scoperto, forse qualcuno ha scoperto, eccetera. Insomma, io voglio no Bangalo, quella oramai per me esatto, è l'hit dell'estate. Avete comunque scoperto che in quei tempi ero attivo da quel punto di vista, no? Insieme a un mio caro amico che menziono ora, Graziano, ma è uno che non vuole essere particolarmente menzionato. Quindi dirò solo Graziano, lui sa chi è, nessuno sa chi è, nessuno di chi ascolta sa di chi si sta parlando. Comunque fa niente. Detto questo, in quel periodo eravamo attivi e stavamo registrando proprio quel brano lì, A.O. No Bungalow, in uno studio di registrazione, attraverso dei produttori che pagavano loro e che erano a loro volta commissionati da una casa discografica che si chiamava Many Records, che credo che non esista più. E quindi Many Records pagava loro, pagava lo studio, pagava tutto. Nel frattempo ci siamo intrufolati e abbiamo fatto un altro brano in praticamente mezza giornata, pagata sempre dalla Many Records, ma ce la siamo fatta per i fatti nostri, in sostanza. Però non doveva comparire i nostri nomi né i loro nomi, doveva essere un disco fatto da qualcun altro, per evitare appunto che dice: beh, ma questo l'avete fatto voi, ve l'abbiamo pagato noi, no? E quindi uscì questo disco che non ha nessun riferimento né a me né ai nostri produttori né a Graziano né a nessuno, e che comunque è opera nostra in puro stile merda degli anni 80. La merda degli anni 80, giustamente. Sì, proprio quella è veramente fetente, e l'abbiamo fatta per un disc jockey della discoteca 2001 di Erba, chi se la ricorda, non so neanche se esista più, ma... E questo DJ praticamente è uscito con questo disco dicendo: l'ho fatto io. In realtà lui non c'era nemmeno, non sapeva neanche che l'avessimo fatto, gli è stato venduto. E per quella performance aggiuntiva abbiamo beccato 500.000 lire, che all'epoca era una bella cifretta, E dite, questo brano, per cui che non sembra, non è roba, invece è roba nostra, cantata dal mio amico Graziano, suonata praticamente tutta da me, è nostro arrangiamento, l'abbiamo fatta tutta noi, e l'unico cenno a un nome che c'è nel disco, che è un certo Patonzon, che è un nome d'arte depositato alla SIAE come nome, nome d'arte, non nome originale, di mio fratello, che era quello che depositava i brani all'epoca perché lui era maggiorenne. E noi non potevamo, era un casino per noi depositare i brani, e mio fratello aveva detto che normalmente lui, come vezzeggiativo, noi belli robusti della nostra famiglia ci chiamavamo Patonzi, che in realtà poi la Patonza è un'altra cosa. Eh sì, sì, un pochetto sì. Però invece noi Patonzi erano belli cicciotti, e lui ha messo come sinonimo Patonzone. Ma perché il concetto è lo stesso, cioè uno è patonzo nel senso che è patatoso, no? Cioè nel senso è cicciotto, se ci può anche stare. È quella cosa lì. E comunque quindi uscivo questo pseudonimo, e poi un Ronnie Hanson che neanche ha partecipato. Ronnie Hanson ha cantato dei nostri brani. Ed è ma Ronnie Hanson quello di Radio DJ? Sì, quello di Radio DJ. Ha cantato un paio di nostri dischi come B Blaze, che in realtà era lui che cantava, faceva il turnista in quel caso, e qui è firmato B Blaze. Mi sto domandando come mai, non c'era nemmeno. Ma comunque vabbè, era del giro, giusto per far firmare, avrà firmato la melodia, cioè avrà firmato la melodia del tè della canzone, mentre invece la parte musicale l'ha firmata Patonzon. Vabbè, ma era influente la firma, tanto la SIAE già allora come oggi è un'entità che può solo che morire, ma fa niente. Detto questo brano adesso che sentite è comunque opera nostra, sebbene non ci sia riportato da nessuna parte, ed è anche stato difficile ritrovare questo brano perché anch'io stesso non avevo più registrazioni di questo brano, l'ho trovata su YouTube, vedete un po' voi, addirittura, e quindi sono riuscito a recuperarla nonostante tutto, perché noi lì l'avevamo fatta, poi l'avevamo ceduta a questo qua, ce l'eravamo dimenticati, io avevo una registrazione su una cassetta che poi ho perso, e il master ce l'ha un anno, non l'abbiamo mai più avuto noi per le mani. Però curioso che è nato così in una mezza giornata mentre facevamo a Ono Bungalow, per cui nei 4-5 giorni in cui siamo stati nello studio, in mezzo ci abbiamo fatto anche un altro disco così, volante. Niente di speciale, ma comunque sentiamocelo, che così vi ricordate un po' il sound nel periodo peggiore. Ok, com'è che si intitola il brano? Si chiama Hot Love. Ok, nel frattempo ragazzi, dopo quando torniamo iniziamo a parlare di quelle che sono state le conseguenze positive e negative, insomma, cioè nel senso in che cosa abbiamo visto riflettere tutta questa fase importante culturale e non insomma del nostro paese, quindi parleremo di TV, cinema, insomma, cercheremo di fare un po' un excursus, parleremo anche un po' dei paninari, perché va a fare proprio una puntata solo sui paninari mi sembrava un po' eccessivo, e quindi se vi viene in mente qualche cosa, comunque avete dei racconti, delle cose che vi possono venire in mente, che magari noi ci possono essere sfuggite, voi intanto scrivetele in chat e poi cerchiamo di recuperarle alla fine. Ascoltiamoci un attimo il brano, che forse parte a un certo punto, eccolo. Beh, indubbiamente ricorda un po', sai, quando vedi quei telefilm degli anni Ottanta, no? Tipo, che ne so, Operazione Vacanze, queste cose qua, c'erano tutte queste musichette, no? Che alla fine il sound era quello, dai. Era, sì, insomma. Sì. E ovviamente il periodo era quello, l'esigenza era quella, il sound era quello, la gente voleva quello e noi abbiamo fatto quello che voleva la gente, non tanto quello che volevamo noi. Nonostante tutto, comunque, qualche tentativo di evadere dallo stereotipo puro che era batteria, cassa rullante, insomma qualcosina ci abbiamo infilato dentro di un pelo più diverso. Sembrava però molto inglese come sound. Ah sì, sì. Calcolate che è stata fatta in mezza giornata su un'idea che avevamo buttato giù così per un futuro disco e ho detto ce l'abbiamo un brano, questo qua, sì, facciamo questo. E mi piacerebbe farvi sentire quello che invece era il suo step precedente fatto in casa, cioè che era una roba che non c'entrava quasi niente, cioè lo studio comunque aiutava a fare qualcosa di meglio, anche perché c'erano degli strumenti più efficaci che quello, certo, che avevamo noi in casa, immagino. E poi c'era un grande entusiasmo, una grande voglia, e quando eri nello studio eri, era una storia bella raccontare come si stava in uno studio, era particolare per dei ragazzini, ricordo che qua eravamo minorenni, 17 anni avevamo forse o giù di lì. Lobby frontali in chat dice conseguenze positive, fate presto. Vabbè ragazzi, allora, sì, riprendiamo un attimo il filo. No, ma l'altra conseguenza positiva è ciao 2020. Sì, no, è vero. Vabbè, quello è stato positivo nel senso come citazione, omaggio a un periodo che noi, sì, comunque ricordiamo anche a livello, ecco, in paesi tipo i paesi dell'est, no, che come ho raccontato già tantissime volte, per esempio i paesi che ricevevano la televisione italiana, soprattutto all'est, vedevano l'Italia anche grazie a questo tipo di trasmissioni, anche a questo tipo di immagine che davamo, lo vedevano come il posto del paradiso, il paradiso in terra, cioè l'acquafan del Riccione, la Milano da bere, le discoteche, Rimini, Riccione, sì, appunto, insomma. Beh, ma guardate che nei locali milanesi davvero venivano tutti, non era per modo di dire, erano frequentatissimi dai VIP. Beh, è stato anche il periodo del boom della moda italiana nel mondo, quindi quello che hai ricordato tu prima, anche sotto il vestito niente eccetera, tutte, sì, le top, la cocaina, model, esatto, tutte le top model del mondo che erano a Milano, tutti i marchi della moda che erano a Milano, quindi Milano faceva concorrenza a New York, a Parigi eccetera, era un po' quel periodo lì, veramente, come ho detto prima, la sensazione è che tutti fossero ricchi, anche quelli poveri, cioè, era una cosa, sì, però questo era generalizzato, non era solo Milano, questo era, beh, così, dico anche soprattutto da noi, a Milano, anche perché era quella cosa lì che poi ispirava in quel periodo tutta l'Italia più o meno come modo, certo, di vivere, ecco. Che ma, poi dopo, ma voi a Roma quando vedevate un milanese cosa dicevate? Il riccone milanese? Allora, no, ma a parte che, come abbiamo già detto in altre puntate, non era così comune, no? Cioè, nel senso, tu comunque le persone di fuori, esatto, quelli di fuori, li incontravi in vacanza, non li incontravi nella vita di tutti i giorni, era veramente difficile, cioè, uh-huh, era una cosa abbastanza particolare, e quindi alla fine quando tu vedevi un certo telefilm e poi magari in vacanza d'estate incontravi quel tipo di regionalità lì, la riconoscevi e magari ci scherzavi sopra, prendevi in giro. Poi vabbè, io mi ricordo che insomma in generale in tanti posti, proprio uè Milano, uè Roma, capito? Cioè nel senso, cioè, si chiamava per città piuttosto, era talmente una cosa inconsueta, no, che alla fine. Però che pensavi? Pensavi, sì, beh, diciamo che non c'è mai stato un grande feeling tra romani e milanesi in generale, no? Questo ci ricordiamo anche i famosi film panettoni, insomma, quelli con Boldi che praticamente andava a vedere la partita del Milan-Roma e stava nella macchina con i romanisti e lui doveva fingere di essere romanista perché sennò lo corcavano delle botte, no? Nel senso, c'era tutte queste scene un po' così che alla fine fanno un po' parte anche dell'immaginario. Anche quello, perché poi sì, insomma, non è che tra persone comuni succedeva sta cosa, no? Però film trash sono fantastici. Vogliamo parlare di Abbatantuono e non so, Eccezionale veramente o Atti la flagello di Dio, dai, cioè Diciamo sì, che sì. Gli anni 70 e 80 hanno permesso, tra la comicità e anche i film più seri, di raccontare una dimensione che probabilmente non a tutti era nota, che era anche quella dell'immigrazione, della classe operaia. Allora, sì, però questo c'era una grossa differenza tra gli anni 60-70 e gli anni 80. Esatto. Su perché c'è stata una grandissima differenza, che prima era vista in maniera abbastanza tragica ed era reale, cioè soprattutto gli anni 50-60 e i primi anni 70. Dopo la metà degli anni 70 e gli anni 80 invece era vista in tutt'altro modo, cioè era anzi una cosa che era un dato di fatto, come una cosa che era così, che era la realtà di fatti, cioè che a Milano la maggioranza della gente non era milanese, punto, cioè era così, proprio così fatto. Per esempio Roberto ha citato Diego Abbadantuono, io se penso alla comicità di Diego Abbadantuono mi ricordo anche l'operaio torinese che andava a vedere la Juventus quando poi lui era povero in canna e parlava calabrese, cioè nel senso per capire insomma il senso, no, della passione, dell'attaccamento a qualcosa che veniva utilizzata spesso proprio come fonte di ironia nel marcare le differenze nei film, quelli più comici, più satirici, no? Ecco, c'era sta cosa che questo magari ci aveva da pensare a portare magari il pane a casa, però poi c'era la partita da Juve la domenica, allora erano botte perché era anche quello, no? Cioè film che nella comicità raccontano un contrasto, però messo sotto forma di risate, no? Cioè quello, alla fine la gente negli anni 70, come dici te, magari era più arrabbiata e non sapeva con chi sfogasse, usava magari la partita di pallone come pretesto. Negli anni 80 tutta questa cosa ce la siamo un po' scrollata di dosso, no? È arrivata una sorta di benessere, molte persone hanno fatto i soldi veramente negli anni 80 e gli si è cambiata la vita, molti hanno vissuto un tenore di vita che era sicuramente superiore a quelle che erano le nostre potenzialità e come abbiamo detto poi l'abbiamo pagato successivamente, però erano gli anni del colore, della gioia, della cultura pop, della musica divertente, basta che me le faccio tutte e via dicendo, insomma del paninaro, dei fast food, cioè c'è stata proprio un'esplosione di cultura, siamo stati poi invasi, no, da tutta una serie di simboli che fino al giorno prima non ci appartenevano e che improvvisamente hanno invaso proprio la nostra vita, McDonald's e Burghi e via dicendo, insomma. Sì, anche. Vista più però qua forse andiamo in un discorso un po' troppo complesso, era anche il declino dell'ideologia comunista eccetera, che la Russia andava verso la caduta del muro di Berlino, e quindi quasi la vittoria di quello che era il consumismo e tutto quello che c'era stato prima praticamente. Sì, cioè sì. Io ho notato negli anni, ristudiandoli, perché non, come ho detto, quando l'ho vissuta non me ne rendevo conto, ma ristudiando quel periodo mi sono proprio reso conto di un cambiamento radicale che c'è stato tra gli anni 70 e gli anni 80 in quanto a presenza della cultura statunitense rispetto alle altre nel nostro paese, in Italia in particolare. Sì, la televisione. Nel vuoto, in quel vuoto che si stava piano piano creando, perché ancora non era poi così presente, però si stava creando, sicuramente si è inserita tutta una parte di cultura e subcultura più globalizzata che alla fine era divertente, no? E quindi in quel erano anni di Top Gun, no? Cioè, esatto. Non se vai a vedere, quindi alla fine era pure Top Gun, era un paninaro alla fine, che era il romano Venditti che cantava Rocky, Rambo e Sting, credo. Sì, vabbè. Ciao Verde Venditti. Vai Roberto. Sì, era un periodo perché dove si stava bene e dove non c'era, cioè sì, si ammirava, io ero sicuramente molto filo americano, proprio sfegatato, cioè io avevo in casa appeso alla camera, avevo la cartina americana e la bandiera americana, per dirtene una, quanto ero pirla. E quindi tutti questi McDonald's, hamburger, panini, tutta questa cosa che ci avvicinava all'America era per me... Per te ancora così. Oggi è così. Sì, però diciamo che quell'epoca era un mio sogno anche possedere un'auto americana. Per un certo periodo sono riuscito anche ad ottenerla con difficoltà, ma sono riuscito ad averla, ma era una sanguisuga. No, era americana, ma era comunque europea. No, volevo prendere una Buick proprio, però alla fine ho ceduto per una... una Ford Granada che non è una macchina americana, ma che aveva tutto lo stile esterno di una macchina americana e interno anche, e consumava quanto una macchina americana, tra l'altro. Allora, però io posso dire una cosa, ragazzi, perché comprendo il fascino degli United States, no? Cioè, quindi questa cosa un po' born in the USA, no? Ci piaceva perché comunque era un'immagine anche diversa, no? Era un'immagine fresca che comunque rompeva molto con la nostra tradizione, con il nostro modo di essere, no? Però di tutte le cose belle che hanno fatto gli americani, o che comunque le macchine erano merda, cioè proprio, cioè, lo so. Ma io non riuscito, non ho mai capito la passione. Io vedo ancora oggi, no, tu vedi delle trasmissioni tipo quelli là del Banco dei Pegni, no? Che arrivano queste macchine che sono veramente inguardabili. Tu dici, oh, meraviglioso, la voglio a tutti. Ma è una merda, cioè. Oh, vabbè, comunque dai, è una cultura. Comunque, viste oggi, le macchine che piacevano a me, che erano proprio quelle degli anni 80, che erano praticamente dei cubi, dei parallelepipedi. Sì, erano come le disegnavi da bambino, poi. Esatto, macchine, però io invece volevo proprio una di quelle. Ma a parte quello, alla fine, se ci pensate, era il momento forse migliore per chiunque di noi, per competenze, per tante cose, riuscire ad andare in America, a trasferirsi là, e secondo me avremmo avuto un successo della Madonna. Invece, siccome era tanto bello stare qua, perché si stava bene, c'era i soldi, c'era il positivismo, eccetera, pochi si sono secondo me mossi verso gli Stati Uniti, che invece era una cosa che oggi io farei, magari non proprio gli Stati Uniti, però oggi a mio figlio, a mia figlia gli direi: vattene dall'Italia subito, trovati un lavoro da qualche altra parte. L'America ovviamente oggi come oggi non è proprio il posto giusto dove andare, per tantissimi motivi sconsiglierei molti di andare negli Stati Uniti, però in molti paesi anche del nord Europa, Svezia, che ne so, vattene da qua, vai lì, che sicuramente è un'altra storia, cioè, c'è più probabilità che quello per il quale stai studiando ti venga riconosciuto o cose del genere. All'epoca invece negli Stati Uniti secondo me c'era la grande possibilità di diventare, anche se non eri un super mega mostro, potevi riuscire ad avere il tuo successo, perché comunque noi rispetto agli americani secondo me eravamo una spanna sopra come mentalità, come genialità, come professionalità, come tante cose. Adesso stiamo parlando di persone magari un po' più adulte, noi eravamo tutti ragazzini in quel periodo, non è che si potesse fare un ragionamento del genere. Però secondo me abbiamo perso delle occasioni grazie a questo finto benestare che c'era in Italia. Abbiamo perso molte occasioni, nessuno si è voluto muoversi, diceva: ma che cazzo mi fa di muovermi, sto benissimo qua in Italia. Quando invece insomma qualcuno adesso che è andato in pensione in questi anni ce l'ha fatta a vivere quel periodo e continuare a persistere su questa linea. Però molti intermedi come me che sono arrivati, sono partiti dal benessere, adesso siamo in una situazione dove il lavoro è diventato un punto interrogativo, e in più ho dei figli per i quali sono un po' preoccupato, la cosa non è proprio bellissima, insomma. Vabbè, è il compito del genitore essere preoccupati per i propri figli, purtroppo. Sì, anche dopo questa botta di ottimismo. Su questa cosa qua non sono mai stato molto d'accordo, nel senso che io ho avuto, l'ho detto spesso, da ragazzo ho avuto la fortuna che i miei mi hanno mandato a studiare in Inghilterra, ma ho girato abbastanza e poi ho visto anche tanti miei amici che invece sono andati a lavorare negli Stati Uniti, alcuni sono andati in Germania, altri sono andati, cioè ho amici un po' sparsi in tutto il mondo, Giappone, anche a Singapore, cioè un amico che perché un po' gli informatici hanno avuto questo, diciamo, vantaggio tra virgolette di poter lavorare soprattutto anche all'estero. E io di tutti i miei amici, anche, sia quelli che sono tornati sia quelli che sono rimasti là, e non solo loro ma lo vedo in generale, tutti hanno nostalgia dell'Italia, perché per quanto noi ci lamentiamo del nostro paese in tutti i modi, e soprattutto adesso che, dove anch'io dico ultimamente l'Italia è peggiorata negli anni, quindi lo dico io stesso che di solito sono ottimista, devo dire che comunque come si vive in Italia in generale non si vive così nel resto del, fuori dall'Italia, anche in Europa. Beh, diciamo che secondo me il problema è che, scusa, vai. No, dicevo che noi abbiamo un sacco di cose che usiamo e le diamo per scontate. Io ho vissuto in Inghilterra a Reading. Ma quando? Dagli anni 80. Secondo me, fino al 96, in un periodo spazio-temporalmente generico degli anni 80, no? Ma fino il problema... da 86 al 96 ci andavo tutti gli anni, per dire, poi ho vissuto lì due anni. Ma non è quello. Poi noi per me è cambiato, Carlo. Ma sì, ho visto anch'io che è cambiato tantissimo dagli anni 80. No, io sono stato i primi anni che sono andato lì, era l'85, l'86. Sono l'ultimo anno che sono stato lì, era il 96. E già in 10 anni l'ho vista cambiare tantissimo. Sono migliorati anche loro in tanti punti di vista. Infatti. E poi, comunque, l'Inghilterra comunque non si sta male. Infatti, tantissimi italiani. E l'Inghilterra è qua vicina, qua dietro, come dire. Sì, ma adesso sono un po' di difficoltà, però. Sì, beh, adesso che c'è la ragione, però soprattutto gli Stati Uniti eccetera, comunque quelli che sono molto mitizzati, noi diamo per scontate tantissime cose che noi qua in Italia usiamo, la sanità per esempio, ma tutta una serie di ammortizzatori sociali che noi qua abbiamo, che te li scordi fuori dall'Italia, ma proprio te li scordi completamente. E anche certi tipi di visione di aiuto alla famiglia eccetera eccetera non ci sono. Sì, quindi è vero. Brutto vivere fuori dall'Italia, senza contare il mangiare. Fermi, stop ragazzi, perché come al solito poi dopo va cominciato a parlare in 50. Aspetta, fermi tutti. L'Inghilterra non è l'esempio giusto. Sì, comunque torniamo in topic, ma diamo un attimo anche di ordine su questa cosa, perché comunque uno spunto pure questo abbastanza interessante che riguarda l'epoca. Poi in realtà è una cosa che secondo me riguarda ancora oggi. Innanzitutto noi non abbiamo proprio in generale la cultura, no? È difficile che vedi proprio le famiglie che spingono i ragazzi ad andare all'estero. Però in generale, detto questo, in realtà è vero quello che dice Carlo, che sicuramente determinate situazioni a livello proprio di vita, di serenità e di tranquillità, e a determinate strutture anche dei diritti a livello sociale, che sicuramente quelle che ci stanno in Italia probabilmente all'estero o in tanti posti non ci sono. È vero però dall'altra parte che sicuramente in certi posti come l'America, anche se poi detto l'America è anche ridicolo, perché l'America è un paese enorme con differenze sostanziali, sociali ed economiche tra uno stato e l'altro, quindi poi alla fine è sempre relativo, però diciamo che sono posti dove ci sono delle opportunità che in Italia non ci sono. Questo forse è la cosa che ti deve far spingere per provare ad andare a volte. Sì, ma guarda, sì. Io ti posso dire una cosa, allora io forse sono l'unico che negli ultimi 20 anni ci ha abitato all'estero, non è più così. In Germania si vive benissimo, è un posto molto vivo anche dal punto di vista culturale, cosa che una volta non era, ed è un posto dove oggi si mangia bene, anche perché la maggior parte ormai dei cuochi e dei ristoranti sono italiani. Puoi comprare, io quando abitavo in Germania, ci ho abitato 4 anni, trovavo le arance, venivano una volta ogni 3 giorni direttamente dalla Sicilia, trovavo cose che in Italia non trovo, italiane. Quindi secondo me è giusto, ma il mondo adesso in alcuni posti, adesso è un anno che abito in Belgio, credetemi, anche il welfare un tempo forse era migliore quello italiano, adesso ho forti dubbi. Poi è ovvio che c'è la nostalgia di casa, sì, la nostalgia quella c'è sempre. Beh, diciamo che noi poi l'abbiamo distrutto quello che abbiamo conquistato, quindi sì, c'è anche da dire questo, piuttosto che più che l'estero che ha guadagnato terreno siamo noi che siamo peggiorati, bravo. Esatto. Come si chiama quell'autore di film americano che fa tutti i film contro l'America, mi sfugge, che sono documentari, sì, quello che ha fatto il film sui fast food, Cicciottello, sì, là, come ne si ha chiama, fatti, sì. Molti, quello lì ha fatto un film su come vivono negli altri paesi rispetto agli americani, su tanti aspetti, la sanità, la scuola, adesso non mi viene tante cose, e praticamente da quel film è uscito che l'America sono proprio veramente il terzo mondo su un sacco di cose. L'erba del vicino è sempre più verde, questo vale per tutti. L'America è un paese, è difficile da paragonare a noi perché ha una cultura e una storia profondamente diverse. Per cui adesso non ce la facciamo stasera a discutere. Non era neanche l'intenzione. Cioè, in generale, se vogliamo ritornare, no, nel senso, l'unica cosa sulla quale concludere è il fatto che comunque chi negli anni 80 ci ha avuto anche l'opportunità di esplorare una cosa diversa, può vedere un attimo anche quello che era il positivo e il negativo che c'era da noi, però allo stesso tempo, indipendentemente da tutto, alla fine insomma, magari sto senso del oddio, poi alla fine tanto male a casa mia non c'è sto, insomma, era un po' questo. Negli anni 80 secondo me sta differenza c'era molto di più, però è vero pure che eravamo anche molto meno abituati a interagire con l'estero, così come dicevamo a inizio puntata, eravamo meno abituati anche a interagire con un ragazzo di Napoli così come un ragazzo di Milano. Certo. Io ho fatto il mio primo viaggio in aereo e sono andato da solo in Inghilterra a 7 anni e fu un'avventura folle e fantastica, che ricorderò per sempre, quindi insomma già sei partito bene, comunque sette anni. Da solo a 7 anni all'epoca pensate che il viaggio aereo all'epoca a parte costava uno sproposito, sì, e poi era una cosa, cioè gli aeroporti erano delle boutique, erano cose folli. E allora, per contarvi un piccolo aneddoto, io partii con il cartellino addosso, perché quando sei minorenne non accompagnato hai il cartellino, devi venire assegnato quando atterri, no? Allora, atterriamo in Inghilterra, c'era una scolaresca di 30 bambini e la maestra impazziva perché ne contava 31, perché contava anche me. L'avrà fatto 10 volte. Vabbè, era un po' stupida sta maestra, però. No, non se lo spiegava, diceva, potrei averne perso uno, ma non possono essere aumentati. Comunque ci fu una nebbia folle e invece di atterrare a Heathrow atterrammo a Gatwick, che è dall'altra parte di Londra, e Londra è una città molto grande, e c'era mio zio che sarebbe dovuto venirmi a prendere, che era nell'aeroporto sbagliato. All'epoca non c'erano i cellulari e io avevo 7 anni, quindi ho dovuto telefonare a casa, mio zio ha telefonato a casa, lui è venuto a Gatwick, io ho preso da solo un autobus che mi ha portato a Heathrow. Quindi, oh, Madonna, a 7 anni, alla fine casino immane, sono riuscito ad arrivare a casa di mio zio che mi ha beccato alle 7 del mattino dopo. Non lo dimenticherò mai, non mi sono creduto di essermi mai divertito come quella sera, tipo mamma ho perso l'aereo, cioè una cosa... Io mi sarei cagato sotto più che divertito, però esatto, disperato più o meno. Vabbè, zio. Dai, allora vogliamo riprendere un po' il... Vai. Allora, vediamo un pochino. Ci dicono che partono canzoni a caso all'improvviso. No, invece è Simone che lui non vuole dirlo. No, non so, è lo stream. Purtroppo c'è qualche problema. Speriamo che domani o dopodomani, adesso gli rimandiamo una bella mail incazzata e dopo fa. No, niente. Fino a che non ci faremo uno stream, un server radio per cazzi nostri, purtroppo ci dobbiamo stare, insomma, come dico, c'è qualcuno. Che vuoi farci? Allora, io vorrei, facciamo una due chiacchiere sulla moda, perché è una cosa simpatica e particolare, anche se da quanto capisco i miei due compari pseudo milanesi non la usano Guarda, io mi taglio subito fuori, perché della mia taglia, di tutte quelle marche, non c'era una Madonna. Cinture non mi andavano bene, i piumini non c'erano da taglia 4XL, sti stronzi, è sempre stato un problema, niente questo. Io vestivo solo da un'unica sarta, che era Gatti Maria, che era mia mamma, che era l'unica che riusciva a fare dei vestiti che mi stavano, che non li trovavo da nessuna parte, cioè, non c'erano neanche i negozi che poi sono esplosi dopo, taglie forti, taglie calibrate, sai, quelli che ti fanno dei vestiti di merda che costano 10 volte tanto, li faceva mia mamma, basta, mia madre era diventata la personaggio di moda di casa Gatti. Maria Gatti la ricordiamo anche come mamma che faceva pantaloni, non magliette, giubbotti. No, lei veniva da un'era in cui i vestiti si facevano, era normale, aveva la sua bella macchina da cucire Necchi e era sempre lì che armeggiava, vedeva un vestito in TV, comprava il tessuto da Raponi, per chi lo conosce, a Bresso, che era uno che vendeva scampoli a tonnellate, tagliava, misurava e alla fine veniva fuori un vestito che mi andava. Io avevo la mia sarta. Ma per tutti gli altri che non erano fortunati come Davide, che con la mamma capace di fare questo, diciamo che c'erano una serie di oggetti di culto che formavano questo strano mix che era un po' country, con alcuni tocchi molto ricercati e in generale molto costosi, almeno per chi se lo poteva permettere. Poi nascerà anche il fenomeno dei tarocchi. Certo. Infatti io volevo parlare di quello. Comunque, diciamo, quelli ufficiali erano borse e pantaloni della Naio Leari, questo per le ragazze, le cosiddette sfittinzie, il piumino Moncler e anche il bomber, magari il bomber un pochino dopo, oppure la giacca di pelle che era lo Scott, l'aviatore. le scarpe chiaramente e necessariamente Timberland, i jeans, i Levi's o i jeans di Armani, la fibbia e cintura di El Charro, le felpe della Best Company, gli stivali della Durango, appunto in questo mezzo stile country se vogliamo, gli zaini Invicta, gli occhiali Ray-Ban e tante altre cose. Chiaramente non tutti potevano permettersi tutta questa roba, per cui sono nati, magari adesso sentiamo da Carlo, dei fenomeni simpatici anche per quanto riguarda l'abbigliamento. Voglio solo aggiungere che anche comincia ad andare molto di moda per tutti la palestra. Sembra assurdo, ma prima non era una cosa diffusissima, comincia a imporsi in questi anni, in particolare con alcuni club famosi proprio a Milano. America o Conturella? Carlo Conti, come si chiama? Conti, America Conturella e altri che erano anche belli. La lampada. Quindi tu vedevi a dicembre gente rossa fosforescente, perché poi le lampade all'epoca non erano manco tanto schermate o cose del genere, omologate, certificate, quindi era una cosa terrificante. E quindi sì, Carlo, quindi sono nati tarocchi. Che tarocchi proprio erano quello che mi ricordo io, almeno era questo, nel senso che io, come tutti i ragazzini di quell'epoca, andavo alle medie, quindi stiamo parlando di proprio, eravamo ragazzini e c'erano quelli che si vestivano da paninari, no? Quindi era una moda molto diffusa e quindi c'era diciamo che tu, per voler essere come gli altri o voler essere visto dalle ragazze eccetera, far colpo, anche tu volevi i jeans di Armani, le Timberland, l'americanino, le Vans, cioè, tutti questi marchi qua di vestiti, insomma, la cintura del Charro, bla bla bla bla. E io venivo da una famiglia che era benestante, perché mio papà era fabbro metalmeccanico, aveva un'azienda eccetera, e però loro per concezione erano contrari a spendere i soldi inutili, anche perché noi comunque, come ti dicevo, io ero di settimo milanese, non ero di Milano città. Io, per dire, casa mia, mio papà era fabbro, mio nonno fabbro, ferrava i cavalli, e dietro casa mia c'era l'allevamento di mucche e con la fattoria di Macazzola, con le galline nell'aia eccetera eccetera. Uè, no? Macazzola! Andavamo a cacciare con Davide Macazzola, il figlio di Macazzola, che era il mio vicino di casa, andavamo nella fossa a cacciare i girini, a prendere le rane, cose di questo tipo, cioè una vita proprio da campagna. E quindi quando i miei mi mandarono alle medie a Milano, prendevo l'autobus alle 6 di mattina per andare alle medie a Milano. A Milano invece c'erano quelli tutti fichettati, e allora anch'io volevo, ma i miei non avevano proprio il concetto di dire ti vado a comprare jeans di Armani, fino a quando scoprimmo, mia madre per caso scoprì sotto la metropolitana di Piazza De Angeli, fermata della metropolitana di Angeli Milano, un tizio, tipo i marocchini, ma non erano marocchini, erano ancora italiani, erano, vabbè, adesso sì, non offendermi, erano i napoletani all'epoca, si diceva così, cioè nel senso che comunque c'erano sotto alla metropolitana, erano napoletani, vendevano i vestiti firmati finti. Però erano firmati, sì, cioè ti vendevano i jeans di Armani a 20.000 lire, 30.000 lire, cioè i prezzi del mercato praticamente. E allora lì per me è stato la scoperta del paradiso, perché effettivamente erano fatti anche bene, cioè tu fregavi la gente con quelli. Allora mi ricordo che mia madre aveva scoperto e mi diceva: ma ti piacciono questi pantaloni qua? Sì, costano anche poco, va bene, prendiamo jeans. Allora mi prese i jeans di Armani, la cintura del Charro, la camicia di americanino eccetera, e tutto vestito bene, però le scarpe no. Cioè non c'erano la coppia delle, cioè non c'erano le scarpe, era più complicato, allora, era più c'erano complicato. non c'erano le Stromberland sì, e Camberland. Allora le scarpe andai in un negozio normale a comprarle, al posto di prendere c'erano le All Stars che costavano tanto, e poi c'erano le Canguro che erano uguali alle All Stars ma costavano meno. Allora ho preso le Canguro. Allora, le Tepa Sport. Quando andai a scuola uno dei miei amici, me lo ricordo, si chiamava Pini, questo qua di cognome, non mi ricordo più il nome, Simone Pini, credo, si chiamava Pini. Pini, me lo ricordo come se fosse adesso, mi fa: oh, Gesù Mario, oh, figo. Beh, già che c'eri, potevi comprarti anche le scarpe dello Starfa con tutto quello che hai speso. E io dico: eh sì, è vero, sono finti i soldi. Invece non era vero, lo spendo pochissimo, era tutto copiato tranne le scarpe che erano originali, ma erano di un'altra marca praticamente. Questo io per comunque dire, di tutta questa roba, l'unica cosa che riuscivo, che sono riuscito a indossare, sono gli occhiali, che avevo dei Rai John con la J al posto di John, Tan, che però sembrava una B. Ci stanno ancora, Rai John. Ci stanno ancora quelli, i Rai John. Sì, questo no, per poi... dire, poi parliamo di cosa è successo invece alle superiori, perché poi ci fu l'esplosione di tutti i gruppi settoriali, no? Rockabilly, punk, paninari, eccetera, quando ho iniziato a capire qualcosina di più alle superiori, metallari, eccetera, eccetera. Sì. Volevo solo aggiungere un discorso sulla palestra. Comunque, anche in quel periodo, negli anni '80, per me la palestra, come Carlo ha ricordato più volte, era una cosa che faceva male, esatto, che era pericolosa, un luogo pieno di pericoli, e ho sempre cercato di evitarla, l'ho evitata completamente. Ma io sono stato fortunato perché ho sempre fatto tantissimo sport in generale senza palestra, quindi e mi divertivo, perché poi alla fine io avevo sport di mascella. Sul discorso della moda, io mi ricordo, io devo dire la verità, in generale, proprio per come ero fatto io, non è che c'avevo proprio tutta questa attenzione. Anche le medie, quando tutti erano accorti, io me ne fregavo proprio niente, cioè anzi, per me erano soldi che potevano essere spesi per ben altre cose che mi interessavano di più, insomma. Beh, tipo i videogiochi. Era un chip per entrare nel club, capisci? Anche a me non fregava niente. Non, sì, esatto. Però non. Guarda, io penso, se devo dire la verità, veramente, poi alla fine comunque qualcosa ce l'avevo, perché anche noi, come diceva, insomma, giustamente, poi in realtà non bisogna offendere, cioè non si deve offendere nessuno, era un'epoca e c'erano determinate consuetudini, oggi è diverso, però voglio dire, cioè, nel senso, devi raccontare un'epoca, la racconti per quello che è, senza fare troppe, certo, pippe mentali, politicamente corretti o via dicendo. Però pure noi, pure in classe mia, c'era la mamma del nostro amico napoletana che c'aveva a casa sua, c'aveva i due negozi dentro casa, praticamente, questa de vestiti di ogni genere, ma non solo vestiti, anche lenzuole, coperte, cioè veramente roba, ed era tutta roba anche bella, insomma, perché come diceva Carlo prima, era roba tra virgolette de marca, che tu prendevi e la pagavi un terzo di quello che è, quindi facevi incetta, insomma, esatto, cioè, quando... Quindi c'era, sì, poi non era escluso che, come lo è anche adesso, magari è roba effettivamente originale, ma magari era rubata, cioè nel senso, non lo so, che saltava, non me lo so mai posto, però devo dire la roba detta da mia madre, che insomma era una che comunque ci faceva attenzione, la roba comunque, la qualità non faceva schifo, cioè nel senso, e poi il modo in cui sta roba arrivava a te, manco ci pensavi, te devo dire la verità, cioè, ma figurati, cioè, ma neanche per idea. Oggi magari te faresti più problemi, nel senso, perché poi a Roma per esempio c'era un negozio vicino al Colosseo dove tu andavi e ogni cosa costava un euro, praticamente 1000 lire prima, poi dopo un euro, e compravi anche camicette anche belle, cioè magari quella era veramente gente morta, chi cazzo, chi lo sa, insomma, cioè nel senso. E poi dopo alla fine dice: senti, ma sai che ti dico, ma sti cazzi che costa tutto un euro, arrivederci. Però allora non ci pensavi, cioè sti cazzi, la roba era bella, c'era questa cosa che comunque all'epoca si faceva veramente molta attenzione comunque alla parte esteriore. Devo dire, anche mia madre è sempre stata una donna molto elegante, è sempre stata una che ci ha tenuto i vestiti, li faceva anche da sola, tra l'altro, quindi non è che, però insomma, il fatto gli faceva piacere che magari io e mio fratello andavamo in giro, insomma, che non eravamo, diciamo, degli emarginati da questo punto di vista. Mio fratello era molto appassionato, io invece proprio non me ne fregava niente. Mi ricordo che addirittura c'avevo un completo tutto giallo, c'era gialla la giacca, gialli i pantaloni, gialla la camicetta, e io ero così orgoglioso di sto vestito, perché era una cosa diversa, cioè proprio ero un cazzotto in faccia quando me andavo in giro. Però ero io, cioè nel senso, ero io ero fatto così, l'altri no, cioè l'altri avevano bisogno di stanco il meccanismo, anche se comunque io la camicia a righine verde e bianca del Ciarro ce l'avevo, insomma. Visto, quindi anche te. Ma ce l'avevo perché comunque a me, cioè, e chi mi conosce lo sa, io tutto ciò che è verde per me è una malattia, cioè nel senso, cioè io, per esempio, quando ero ragazzino e mia madre mi faceva acqua e menta, io stavo 20 minuti a guardare il bicchiere d'acqua e menta prima del berlo, perché proprio quel verde intenso mi ipnotizzava il cervello. Cioè, per me era così, insomma, ognuno. Cioè, stranezze sue. Vai, Robby, ti prendi le redini. Allora, se hai, se mi lanci quel piccolo contributo. Sì, aspetta, che ti porti in un posto troppo giusto e lì ti rivolto come una tasca. Allora, penso che avrete tutti riconosciuto il paninaro del drive-in Braschi, e c'è stato anche un fenomeno abbastanza particolare grazie alle televisioni di Berlusconi, che forse per la prima volta un po' di linguaggio abbastanza milanese si è poi propagato in tutto il paese, anche se va detto che molte di queste espressioni erano più televisive che altro. Diciamo che per strada non si parlava veramente così. Delle esagerazioni, dice. Delle sì. esagerazioni. Sì, però esasperazioni, anche se poi alla fine, secondo me, molti invece l'hanno utilizzato, hanno cominciato a utilizzarlo. Hanno cominciato a utilizzarlo, ma non in questo modo così, voglio dire, marcato ed esasperato. Però c'era qualcosa. Vabbè, ma quello è ovvio, cioè, come se non è che andavano i romani, andavano in giro di, che ne so, mamma mia, che pezza! Cioè, capito? Cioè, nel senso. Esatto. Era chiaro che era tutto un po'. Un po' spinto, però è vero che nasce un gergo e che appunto viene pubblicizzato in tutto il paese, e nasce un fatto che a Milano prima era meno spinto, che quello del ricorso a un po' di scurrilità. Questa è una cosa che viene notata. Nascono una serie di espressioni di iperboli, di cose spinte, tipo sono fuori come un citofono, un balcone, un'antenna, cose di questo tipo. Si usano molte abbreviazioni, le Timberland diventano le Timba, oppure Kurma per Courmayeur, Raga per ragazzi, la Compa per la compagnia, o meglio ancora la Company, perché un altro fenomeno è l'utilizzo di neologismi tratti dalla lingua inglese, quindi appunto gli amici diventa la Company e Compa, o Arrapation, quindi proprio dei neologismi, China per riferirsi a quelli di sinistra, very, original o cose di questo tipo, quindi questo utilizzo un po' ridicolo, se vogliamo, della lingua inglese. Storpiature, alcune di quali rimangono ancora, il panozzo, questo veramente si usava a Milano per dire un panino. Sì, sì, questo lo dicevo anch'io, andiamoci a fare un bel panozzo. Ma lo dico ancora adesso, io, a dire la verità. Fai bene. Quindi questo è un linguaggio particolare. Abbiamo visto proprio Braschi con troppo giusto e troppo scarso. Sebbene, ripeto, erano un pochino delle esagerazioni, però uno slang esisteva, non così stereotipato, però esisteva. Ho trovato un buffo dizionario sopra i fumetti, di cui magari parliamo dopo, che ci dice che Gino era il tipo un po' sfigato. Uè, Gino. Meucci. Sì, questo derivava, esatto, dal dialetto milanese. Esatto, sì. Gino era in dialetto milanese, si diceva che era uno stupido. Poi era Meucci il telefono, China il militante di sinistra, Cinghios il tamarro di periferia, Fiocinare gettarsi a capofitto su un paninazzo o una ragazza, cipponare e disturbare. Io conoscevo cippone, per la verità. No, queste sono, no, mi sembrano un po' inventate così a naso. Però queste, broccolare, no, dai, broccolare sì. Queste sono nate da una serie di fumetti che voi non ci crederete, ma hanno venduto tantissimo. Il paninaro. Che sono nati. Uno è il Paninaro, che è un fumetto che è nato nell'86 della collana I Nuovi Galli. I Nuovi Galli. Però anche Preppi, Cucador, che Cucador, è il giornale dei veri, certo, paninari. Cucador, dai, Cucador, sì. Me lo ricordo. Cucador. E Wall Boys. E queste idiozie, e poi noi ridevamo di cioè delle ragazze, però voglio dire, questi non è che sono tanto diversi, vendettero un sacco, Può sembrare una follia, però, però è così. Non ero uno degli acquirenti. Non ero uno degli acquirenti. Facciamo una statistica di noi quattro. Se qualcuno di noi quattro ha mai letto uno di questi, almeno uno. Dal parrucchiere? Sì. Dal parrucchiere, sì. Dal parrucchiere. Quando eri dal parrucchiere c'erano le ore. Dal parrucchiere c'erano le ore. C'erano. Nel mio c'erano anche questi fumetti qua dal parrucchiere. Me li ricordo lì. Cioè, io se devo ricordarmi questi fumetti, me li ricordo dal parrucchiere quando devo tagliare i capelli. Esatto, è vero, cazzo che non mi ricordavo più, è vero che da parrucchiere c'erano tutti questi giornaletti e anche vabbè quelli porno, c'erano tutti quelli porno belli tosti dal mio parrucchiere, qua tutti i miei parrucchieri ce l'avevano, si vede che era una moda così. Era così. Ma questa cultura ha creato anche molte cose, adesso qui passo la palla a Carlo perché esiste un videogioco per il Commodore 64 di Logica 2000, dico bene? Ma non era un videogioco, era una cassetta, c'era di quelle compilation dove c'erano varie robe dentro se non sbaglio. So che si chiamava Squinzie, Sfitinzie e Paninari. Mamma mia, che roba. No, no, c'era un videogioco del Paninaro. No, il videogioco del Paninaro c'era, uscito dalla ID Soft, l'ho fatto io. Esatto, l'avevi fatto tu. Chi poteva averlo fatto? Ma andiamone fieri, soprattutto. Vabbè, ragazzi, avevo 14 anni, poi non è vero che l'ho fatto. Scusa, è quello che ci avevi guadagnato un sacco di soldi dal primo videogioco. Avevi guadagnato dei soldi che i tuoi sono rimasti increduli. No, non è quello. Non è quello. Beh, aspetta, me lo auguro. E comunque sono rimasti increduli nel contrario, cioè quando mi hanno pagato finalmente per un videogioco che era molto dopo, era un anno dopo quello, in realtà mio padre disse vai a fare il dentista perché mi diedero tipo qualcosa tipo 370.000 lire, una roba del genere, quindi figurati. Vabbè, ho capito, vai a fare il dentista, mazza, cioè. Si fa così dal giorno alla notte il dentista. Sì, comunque mi ha detto studia, fai il dentista, e c'aveva ragione, da quel punto di vista lì i soldi non si facevano, almeno in Italia, nel videogioco. Però detto questo, quel videogioco lì l'ho fatto io tra virgolette, nel senso che in realtà l'ha fatto Marco Mietta, l'autore Marco Mietta, che aveva 5 anni più di me. Siccome andavamo al mare all'epoca, erano gli anni in cui ad agosto, fine luglio, diciamo, dopo la scuola, si partiva e si andava al mare, si stava lì 2 mesi, 3 mesi anche, nel senso che non era come adesso che c'erano le dove vai in vacanza, vado di qua, vado di là, eccetera. No, le vacanze dell'epoca era da Milano ti spostavi in Liguria, dalla Liguria tornavi a Milano, fine. E ci si andava quando finiva la scuola, ti spostavi con i nonni prima, poi dopo arrivavano ad agosto, arrivavano la mamma e papà, i nonni tornavano indietro e poi dopo a settembre si tornava a scuola. Quindi funzionava così per il 90% di quelli che conoscevo, quindi era una cosa comune, cioè il fatto di fare le vacanze sempre nello stesso posto, sempre nello stesso periodo. C'era la compagnia, tu avevi gli amici di scuola a Milano e al mare avevi la compagnia del mare, che erano, esatto, tutti quelli che andavano lì sempre nello stesso posto tutti gli anni. E in questo posto, che era Borgio Verezzi, tutti gli anni ci vedevano una serie di persone, e la compagnia del mare era anche eterogenea come età, non era come a casa che avevi gli amici della stessa età perché erano i tuoi amici di scuola, lì conoscevi anche quelli più grandi e quelli più piccoli. Quindi io facevo parte di una compagnia del mare dove c'era questo ragazzo che si chiama Marco Mietta, che aveva 5 anni più di me, e lui aveva già capito che le stupidate che noi scrivevamo sul computer poteva anche venderle, no? E all'epoca c'era un editore che era Ladysoft di Milano, che faceva una delle prime riviste su cassetta che usciva in edicola, si chiamava Next 64, che gli comprava, che andavi lì e ti dava la 500.000 lire per il gioco che avevi fatto, per dire, no? Quindi Marco Mietta cosa faceva? Lui pensava ai giochi, poi li programmava al mare, però siccome ne doveva fare magari 3 o 4, si faceva aiutare da tutti noi che eravamo tutti appassionati di computer e informatica in questa compagnia del mare, e io ero bravo a fare la grafica, sono sempre stato bravo a disegnare, a fare la grafica al computer, e quindi disegnavo, perché all'epoca la grafica in quei tempi non è che si disegnava col computer, sì c'era qua la Paint, ma potevi al massimo fare la schermata iniziale, ma soprattutto in quegli anni lì, stiamo parlando del 1984, praticamente il Commodore 64 era appena uscito, la grafica si faceva, il gioco era scritto in Basic e la grafica si faceva scrivendo i POC con i byte dello sprite che avevi disegnato sul quaderno a quadretti, e gli sfondi li facevamo con i caratteri pecci del charset del Commodore 64. Questo era il modo di fare il gioco di quell'epoca. Quindi io al mare, in spiaggia, su un quaderno a quadretti, ho disegnato lo sprite del paninaro, della sfittinzia, lo sprite della moto, dello Zundapp, della Vespa che guidava nel secondo livello. Ho disegnato sempre sui fogli di carta gli sfondi fatti in pecci, ricordandomi a memoria tutti i caratteri, eccetera. E dopo Marco, sul suo Commodore 64, si metteva lì, perché io avevo lo Spectrum, ma disegnavo sul foglio a quadretti la grafica che Marco faceva per il Commodore 64, e si metteva lì e si inseriva tutti i codici e puff, si vedeva saltare fuori la grafica. Eri che avevamo lì. Eri già multipiattaforma all'epoca. Eravamo una compagnia di pazzi scatenati, che tutti appassionati di nerd, diciamo, dell'epoca. Peccato che sei partito col computer sbagliato, cacchio. Ma no, era anche giusto, che eravamo eterogenei all'epoca. Comunque, per farla breve, il gioco del paninaro perché in quel periodo lì, non perché noi fossimo paninari o amassimo in particolar modo l'ideologia, ma semplicemente perché in quel periodo si parlava solo di quello, c'erano, come ha giustamente detto Roberto, c'erano i fumetti, c'era il paninario in televisione, tutti parlavano dei paninari di qua, c'era il disco dei paninari fatto dai Pet Shop Boys, in televisione si parlava dei paninari, e allora perché non fare un videogioco dedicato al paninaro? E quindi disegnai questo sprite con il bomber, scusami, col piumino Moncler, con le Timberland alte, i jeans col risvolto, ovviamente. E vabbè, adesso le vogliamo anche vedere in qualche modo. Vabbè, potete trovarlo, cercate il paninaro Commodore 64 su YouTube, eccetera, lo trovate, lo vedete. Voglio vedere i disegni originali su carta. I disegni originali su carta ce li ho. Come posso farteli avere? Però aspetta, no, fai una scannerizzazione, ce la fai vedere a tutti, insomma. Sì, no, ce l'ho già scannerizzati, ve li mando su dove? Sulla chat di Runtime, direi, quella su Telegram. Ok, adesso vai rimando. Interessante. Comunque lo stesso ragionamento della musica, che noi facevamo la musica che in quel momento andava, ma non necessariamente che ci interessava o che ascoltavamo. Era solo perché era l'unico modo per avere speranza di fare un successo, di fare dei soldi sostanzialmente, ecco. E di provare una roba, che di andare in uno studio di registrazione. Io ci andavo anche a fare quello che voleva, quello che volevo facevo, pur di andare in uno studio. Eccolo qua. Non avevo una religione musicale. Qua c'è lo sprite della Vespa con la conversione in numeri decimali. Ve la mando sulla chat di mandalo su diretta Runtime. Su diretta Runtime. Sì, cosa, almeno la vedono anche gli ascoltatori se si collegano alla diretta Runtime su Telegram, o lo vedranno anche successivamente qua. Perché rimane lì in eterno su Telegram, rimarrà per sempre, ragazzi. Guardate, questa qua è la scansione originale del mio block notice con la Vespa disegnata a manina e con tutta la conversione in numeri da binario a decimale per poi essere inserita come grandissimo, sprite, grandissimissimissimo. Quindi neanche ridefinizione dei caratteri, proprio sprite. Guardate, pure io li facevo così, tanto se facevano così, quindi non c'erano, certo, molti modi, esatto, così, infatti mettevi carta e penna, facevi tu conti, certo, guardate, qua ci sono trasformavi in data poi. Del paninaro e della sfittinzia. E di fianco c'è anche una prima versione che avevo abbozzato della versione Spectrum, che non è mai stata fatta invece. di fianco a, ai due in versione, certo, come per, 64. Per capire che un Moncler ci vuole molta fantasia. Eh beh, ragazzi, erano 4 pixel in croce. Comunque, vedi che c'è anche l'appunto, quella è la scrittura di Marco, perché io l'avevo disegnato e lui mi fa allunga le gambe di un pixel a lui e a lei. Vedi, ce l'ha scritto. Ok. Sono ancora gli appunti che ci scambiavamo all'epoca sul... Vabbè, è bella, una bella cosa riuscire a avere ancora avuto questa, queste cose. Le ho trovate, questi li ho scannerizzati anni e anni fa, ti parlo già agli inizi degli anni 2000, perché avevo trovato uno scatolone con dentro i miei vecchi blog notes, e allora ho detto vabbè, questi li scannerizzo che non si sa mai, e sono rimasti poi sempre nel mio hard disk. Sono rimasti, beh, certo, dentro. Ormai quello che è stato scannerizzato rimarrà per sempre. Io vi lascio parlare, come vi sarete resi conto, ovviamente intervengo poco perché nel frattempo sto programmando un'avventura testuale e guardando l'Italia, però mi sono distratto più dall'avventura. Esatto, io vorrei fare una rapida carrellata dei film che andavano per la maggiore, chiaramente rimanendo in tema, quelli che più andavano vedevano un milanese come Renato Pozzetto, ad esempio, o un milanese d'adozione, come abbiamo detto, come Diego Abatantuono, ma esatto, ce n'erano diversi. Mi viene in mente, citandone un po', Mani di Fata di Steno, Un povero ricco, Il ragazzo di campagna, che quindi abbiamo scoperto essere il nostro Carlo, esatto. Lui è peggio di me, Sotto il vestito niente, di cui abbiamo parlato, il film Yuppies, che nasce da un libro, un film assolutamente frivolo che si chiama Sposerò Simon Le Bon. Mazza, mamma mia, io non l'ho visto, forse l'ho visto di traverso, ma era allucinante. Questo è nato da un libro scritto da una ragazza, un adolescente che era nel mio liceo, però era più grande, infatti fu una cosa un po' particolare. Altri Italian Fast Food, Via Monte Napoleone e quelli di, abbiamo già citato quelli di Abatantuono, viene in mente Eccezionale Veramente, con le varie scene, in particolare dove lui fa il tifoso, tra l'altro Milan, Inter e Juventus, oppure quando fa il ras della fossa, o Attila Flagello di Dio, che è veramente esilarante, voi lo vedrete girare dal bravo Longobardo per una zona vicino all'idroscalo con la bandiera del Milan, non so chi ci ha fatto caso, sul carro di Attila c'è la bandiera del Milan. No, non l'ho notato. Io ce l'ho come video nella macchina del caffè, cioè quando io ho la macchina del caffè con un monitor che quando prendi il caffè fa vedere dei video random, e c'è la scena, c'è una scena del film, questo qua ogni tanto appare, è bestiale. È trash, ma secondo me è davvero folle, incredibile, di una grandissima comicità. E questi sono alcuni film. Come telefilm ho voluto ricordare uno nato dal fumetto, dai disegni di Crepax, che è Valentina, che nella versione telefilm è interpretato dalla bellissima Demetra Hampton, che magari non vale tantissimo come telefilm in sé, però per la sola presenza della Hampton probabilmente vale la pena di essere visto. Per la musica probabilmente qui ci viene in aiuto Davide. Io ho scritto alcuni gruppi che sicuramente andavano per la maggiore in quei tempi, in particolare a Milano, quindi ovviamente Duran Duran e Wild Boys in particolare, ma non solo questo, gli Spandau Ballet, gli UM, i Simple Minds, i Frankie Goes to Hollywood, Sandy, sì, Martin, Tracy Spencer, Taffy. Sì, questa è tutta Italo, questa è tutta Italo Dance. Italo, esatto. Dance, sì. Spagna era di Torino, Torino, Salerno, Novecento. Sì. Novecento era di Milano. Milano, sì. Novecento, esatto. Registravano in uno studio a Settimo Milanese, me lo ricordo. Vedi che allora c'eri anche tu. Dan Harrow, i Gazebo, esatto. Video Music, che sfonda. E in particolare la DJ Television su Italia 1 con Jerry Scotti, sì, e Giovanotti, poi Linus, poi Linus. Piraccioni, ha esordito lì, tanta gente è arrivata da... Se, Simone, se abbiamo un altro inserto musicale, credo, a proposito di musica. Sì, questa è, gli piace a Carlo, quindi la metto. La, quella preferita di Carlo, vai. Diciamo la monnezza anche il testo pregno è importante, insomma, identificarlo, cioè, come monnezza, però faceva cagare all'epoca, insomma, ma fa cagare male, anche dai. Adesso aspettate, comunque sono i Pet Shop Boys con Paninaro. Sì, Pet Shop Boys, sì. Fa cagare, però pensate che comunque un gruppo importante inglese ha sentito la necessità di fare una canzone. Ha sentito la necessità perché sapeva che poteva guadagnarci dei soldi, ma esatto. Si vergognano ancora adesso. Spero di sì. Ma chissà, insomma, alla fine quel... era un fenomeno di costume. Non sarà l'unico brano che, se andiamo a vedere nella storia musicale, è nato sull'onda di qualcosa, e oggi è una vergogna sentirlo, e anche loro si vergognano di averla fatta. Però ci sta, anch'io l'avrei fatta, ti dirò. Se mi dicevano, vabbè, guarda, tu facevi il bungalow, quindi ci può stare. Esatto. Prendi 10 milioni, molto più bella. Subito, avrei detto anche Paninaro. Ma anch'io, voglio dire. Cioè, nel senso. Comunque, io in quel periodo, vi dirò la verità, non vi nascondo che di questa musica ascoltavo veramente poco, se non l'Italo Dance, perché bisognava sentire come era fatta per poterla poi rifare, certo, anche se tu non avevi voglia di farla. Però in quel periodo veramente io ascoltavo tipo i Depeche Mode, New Music, Human League, Aha, New Order, Orchestra Murders in the Dark, Ultravox, Yazoo e altri gruppi sconosciuti tipo Yellow Magic Orchestra e Tomita, che non saprete mai chi sono, ma andatevi a cercare. Era un gruppo giapponese, Yellow Magic Orchestra, e Tomita era sempre giapponese. E musica tutt'altro, ascoltavamo quel tipo di musica che poi era New Wave in realtà, che poi era il filone che seguivo di più, anche a livello di moda, di cultura, di tutto. E Paninari per me erano proprio lontanissimi, anche perché non potevo aderire al loro sistema per problemi di abbigliamento, problemi di presenza fisica, cioè io ero fuori forma, mi avrebbero buttato fuori. Ma se tu avessi potuto l'avresti fatto? Sì, l'avrei fatto, penso che l'avrei fatto sicuramente, pur di appartenere a una compagnia dove c'era movimento, dove c'erano tanta gente che si conosceva. Quando era una cosa che abbiamo iniziato a accennare prima, magari adesso ne parliamo più in dettaglio, quando c'è stato poi il periodo della appartenenza ai gruppi, che è stato un periodo molto sentito, quello l'abbiamo accennato prima, forse prima della della diretta, il fatto che in quel periodo, negli anni fine anni 80, c'è stato questo momento in cui tu dovevi appartenere a un gruppo in qualche modo, cioè o comunque l'appartenenza a determinati gruppi era molto sentita. Sì, se no è isolato. Sì, esatto, cosa che adesso non c'è più, almeno non la vedo così presente. No, non la vedo in questi termini. All'epoca io mi ricordo che, come ho detto prima, alle medie, quindi ragazzino, avevi fatto, cioè, quella cosa lì, trovati vestiti costava un poco, ci sei vestito come un paninaro perché era la moda, perché così le ragazzine ti guardavano e gli amici dicevano avevi una vita sociale, in poche parole avevi una vita sociale. Però alle superiori, quando ho iniziato a capire un po' qualcosa, non mi sono identificato nei paninari da subito, cioè ho capito che non era il mio gruppo. Però c'è stata una cosa strana che, ripensarci negli anni, mi fa ridere adesso ripensare quello che feci all'epoca, perché non riuscendomi a identificare nei paninari, non riuscivo a identificarmi però neanche negli altri gruppi, perché c'erano quelli politicizzati, c'erano quelli che avevano certe ideologie, c'erano quelli che gli piaceva un certo tipo di musica. E allora li ho passati tutti, cioè del tipo, vabbè, io provo, no? E allora sono diventato in sequenza dark, rockabilly, metallaro, cioè tutti di seguito, andando a comprare. Ho voluto vedere metallaro, Carlo, guarda. Sì, sono andato con un mio amico che gli piacevano gli Iron Maiden e gli ho detto, dove si compra il chiodo? E mi ha portato in un negozio, mi ricordo, a Milano, dove ho scelto questo giubbino che era il chiodo, perché il mio metallaro era jeans. Il fiera di Sinigaglia si prendeva. Jeans, maglietta bianca, chiodo, alla fine era, non è che ce l'aveva bello, avuto. Il chiodo è bello, mi piace. E allora lo comprai sto chiodo, no? E tu peccato che però la musica degli Iron Maiden mi faceva abbastanza cagare, cioè non ascoltavo la musica metal. Esatto. Era un problema completamente, perché poi ti vesti così, ti iniziano a dire, ah, ma ti piace questa canzone, questo io fare il punk. E allora no, ma anche il punk non mi identificavo, rockabilly non capivo che cosa facessero, perché poi c'era un mio amico che invece era rockabilly nella mia classe e iniziava a vestirsi col bomber, cioè al ciuffo eccetera, poi iniziava a parlare di spaccare le cose, andare a distruggere, anche lì non mi identificavo per niente lì dentro. Poi c'era i dark, ecco, quello forse è stato il periodo più strano, perché i dark erano quelli che ascoltavano i Cure mi piacicchiavano, quindi diciamo anche che lì c'è stato un po' più di identificazione. Il problema è che dovevi vestirti sempre di nero, triste, io ridevo, quindi non andava bene, cioè non ci azzeccavo. Alla fine, quanta creatività che c'era, ho capito che non facevo l'emo, tutti bianchi emaciati, l'emo e il dark non è che sono tanto di simili, esatto, è lo stesso nome negli anni più o meno. Comunque alla fine ho capito che non facevo parte di niente, che ero un nerd e basta, e quindi alla fine basta, mi sono rassegnato alla mia esistenza io ho avuto un percorso un po' meno vario, però anch'io da paninaro mancato, perché comunque non potevo, però avevo degli amici, ma generalmente anche i miei amici non erano di quel genere lì, però rockabilly sicuro, ma me lo ricordo solo per aver ballato e vestiti un po' così anni 60, col cappello, la cravatta, ci si vestiva anche bene, devo dire, tutto sommato. Poi vabbè, il periodo punk, che è durato poco, ma è stato solo veramente un uscire, fare delle gran niente pirlate, andare in giro a vestirsi in maniera molto strana, con vestiti tutti che sempre faceva mia madre. Ecco, l'avventura punk è stata allucinante, perché mio padre, se mi vedeva, mi uccideva, più o meno, penso. Certo, allora, mia madre, che invece era un po' più, come dire, ti vedo che sei poverino, che non hai nessuna amica, nessuna ragazza, sei un poveretto, un cicciottino, poraccio, ma fai quello che vuoi, dai, cosa vuoi fare? I miei amici fanno così, cosa? Mi faceva i vestiti, mi ha fatto i vestiti punk mia mamma, ragazzi. che donna santa era, santa donna, vestiti tutti neri, tutti di pelle, di roba, e me li faceva, io gli facevo vedere i modelli, le cose. Poi c'avevo un mio amico che era di famiglia, che era punk, e veniva vestito proprio così, lui stava vestito sempre così, era uno molto eversivo, e praticamente veniva a casa mia e mia mamma gli diceva: ma come mai ti vesti così, ma come mai, ma bello di questo, allora me lo facevo uguale, che è stata veramente una roba tenera. E poi uscivo con questi amici qua vestiti da che praticamente la gente ci vedeva, ci diceva: ma chi sono sti pirla qua che vanno in giro così, e io andavo in giro, facevo un po' tante cazzate, ci siamo divertiti, però io non sapevo neanche cosa volesse dire essere punk, proprio zero, però li seguivo per avere una, non dico una vita sociale, ma più o meno. Ma era per tutti, io ripeto, almeno per io vivevo in città, per noi al 99% era un modo di appartenenza per poter entrare in gruppi sociali, non c'era un altro motivo, insomma, per queste cose. Piuttosto faccio ammenda perché non abbiamo parlato, adesso abbiamo citato i punk, un gruppo famoso e bellissimo secondo me erano i Dead or Alive, tanto per sì, sì. E uno dei miei preferiti in assoluto, i Tok Tok, con il grandissimo Mark Hollis, che purtroppo è scomparso non da moltissimo, da un paio d'anni credo. Sì, io di questi gruppi inglesi poi ce n'erano comunque tanti altri che adesso ci sfuggono, certo. Ma comunque abbiamo capito di che genere si sta parlando, ma ce n'erano tantissimi anche che magari sono durati, sono stati una meteora, poco, certo. Sì, però diciamo che sono rimasti I Bronski Beat, ve li ricordate? Bronski Beat, sì, me li ricordo tantissimo quelli. Non li amavo, Jimmy Somerville. Ma me li ricordo. Jimmy Somerville invece, quello mi piace ancora oggi. Quello faceva della musica abbastanza seria, non era proprio così... Serissima, ed è una voce eccezionale, alcuni brani sono non era favolosi. Proprio commerciale, lo è stato per un piccolo periodo, ma in realtà lui era abbastanza curato, cioè abbastanza ricercato, devo dire. È un musicista, perché molti di questi in realtà poi non sono neanche, non li considererei neanche musicisti, cioè Sandy Martin, Tracy Spencer. Lui non cantava, se non vado errato, all'inizio ha imparato a cantare dopo, e lui metteva, sì, metteva la faccia e muoveva la bocca, ma anche Denaro neanche proprio era lui che cantava, non era mai cantato, ha cantato verso quando è diventato famoso dopo l'Isola dei Famosi, ha fatto qualcosa e faceva finta di cantare, ma non era lui, ma che ha mai cantato come erano Gazzetto. Creatori di Cecchetto questi, eh? Sì, tutto questo filone come erano tanti quasi altri, tutti di frontman e basta, ma poi dietro c'era tutto un'altra, c'era un entourage che digestiva, era veramente finanza qua, era proprio gestione, finanza, e qualcuno poi tipo Jovanotti piuttosto che Jerry Scotti poi hanno spaccato, e Jovanotti però poi è uscito fuori per conto suo, perché sì, cioè, all'inizio Jovanotti è diventato un personaggio multipoliedrico, sì, da un pirlotto. All'inizio era una zozzeria, cioè, sì, assolutamente. Però adesso invece fa piacere vederlo e sentirlo, anche se non è che sia il massimo dell'intonazione, però c'ha un carisma importante. Sì, sì, vabbè, più che altro anche la ricerca, il contenuto, no? E anche un po' il variare musicalmente. Certo, poi dopo lui ha dei limiti tecnici che ha anche compensato con lo studio negli anni, grazie al cielo. Esatto. Era simpatico anche quando faceva cos'era. No, io non so, mi stava sulle balle a me. No, non lo potevo vedere. Se guardi adesso un video di quando era ragazzino, gli daresti due sputate, sì, in faccia. Sono come la mia moto. No, ma la mia moto, perché non si rompe sta moto? Era simpatico, dai, ma come siete? Sì, non era antipatico, però ti veniva voglia comunque di cambiare canale. A me veniva voglia di dargli tre sberle dall'altra parte. Diciamo che Lorenzo, che faceva il DJ nelle discoteche romane, per chi lo conosceva era un coglione e rimaneva un coglione, poi per chi ha conosciuto solo il fenomeno, alla fine pensava che fosse un po' tutta un gioco, una montatura, no? Fosse un personaggio, no, lui era proprio così. Quindi poi dopo è cresciuto, ha avuto anche l'opportunità. Sì, si è cresciuto. Diciamo che tutti ha avuto la fortuna che abbiamo di recitato sono scomparsi, cioè la maggior parte a bazar, sì. No ma anche quello degli 883 che era insieme a quell'altro che saltellava. Vabbè, quello se narra la leggenda, se narra una leggenda che è andato a finire a fare il pupazzo a Disneyland Parigi. Non mi ricordo come si chiama, quello che si chiamava Repetto, quello che saltava, che non faceva un cazzo. Molti i righeira, quelli li ricordate? Certo, sì, ma Rivera credo che siano andati nei casini per qualcosa legato alla droga, comunque, sì, qualcosa del genere. Spagna, per esempio, una che è partita Spagna, come una così, Spagna, e invece poi alla fine era una gran signora, gran cantante. O Sabrina Salerni, quello che faceva Rock and Roll Robot. Mamma mia, sì, anni 70, sì, però. Terribile, terribile, sì, sì. No, no, anche anni 80, anche anni 80 ha cavalcato la dance, la Italo dance, più che altro più un genere tutto suo particolare, perché era un po' anni 60 riproposto con il sonoro, i suoni degli anni 80, più o meno. C'era una Zebra Poa. Vabbè, ma comunque faremo una puntata sulla musica specifica. Dai, vedremo, sì, sì, beh, sì. E ci metteremo i Kraftwerk, per favore, che sono il mio gruppo in assoluto preferito. No, ci metteremo Falco, ragazzi. Falco. Sì, Der Kommissar. Vabbè, Amadeus. Vabbè, anche i rapper degli anni 80, allora lì non finisco più. Sì, no, ma ce ne sono tanti. Cioè, sicuramente non finisco a livello musicale più, è la minaccia. Non finisco più, esatto. A parte eppure uno dei grandi fenomeni di quella un'intera puntata a fare, cioè uno dei grandi fenomeni di quell'epoca. Diciamo che è un fenomeno che è sempre esistito, ma in maniera diretta è un fenomeno che ho vissuto io. Era quello del fatto che quando arrivava Simon Le Bon in Italia, cioè non c'erano cugine, fidanzate, amiche, robe, si strappavano i registri, ed era una cosa che a noi ci faceva incazzare come ci fu anche il famoso film Voglio sposerò Simon Le Bon, no? Sì, sì, abbiamo detto prima. Bella Simon merda, Le Bon, bella che merda. Poi voi lo sentite cantare nei dischi e più o meno può piacere o non piacere, ma se vi ascoltate le live di come canta, vi mettete veramente le mani nei capelli. Vabbè, ma cioè, lui era un frontman, era, cioè, poi non vabbè, so, però la musica, alcune canzoni, era carino, no, no, la musica qualcosa. Anche a me non mi dispiace. Prayer è stupenda, secondo me, cioè. Però se lo sentite live è tristissima la cosa. Tomaiolo è il difensore assoluto, non è capace, sì. Non è proprio capace di cantare. Io l'ho visto live, Tomaiolo, l'ho detto, anche se, è il bragagnolo di questa puntata, insomma, quindi. No, comunque una reunion dei Duran Duran a Trieste, ecco. Però può darsi che poi negli anni abbia migliorato. Vabbè, la sua magari esperienza, magari ha anche studiato, cioè ragazzi, comunque i Duran Duran erano sicuramente una band che c'era anche una base musicale dietro, altrimenti non arrivi a determinati livelli, però fondamentalmente era quello che poi successivamente sono diventate le boy band, cioè erano comunque gente costruita perché erano belli, sì, erano fighi, erano carucci e tutte quante si strappavano i capelli. Però voglio dire, non è che stiamo a parlare dei Beatles, insomma, ragazzi. No, guarda, cioè, che ognuno di quelli di cui abbiamo parlato, se andiamo a ascoltare tutti i brani, un qualcosa di buono l'hanno anche fatto. Ma sì, cioè, vabbè, cioè vi piacevano? Sì, non mi dispiacevano, li ascoltavo sicuramente, però diciamo, però se non tu pensi al fenomeno, no, se tu, certo, pensi, certo, anche, però anche erano piacevoli, erano a me, cioè, adesso viene in mente, per esempio, abbiamo parlato un po' questa sera di questi fenomeni veramente peculiari milanesi e italiani, perché io credo che in nessun altro posto del mondo sarebbe potuto nascere un fenomeno così particolare, e mi viene in mente di paragonarli a quello che noi abbiamo visto, che è comunque attraverso il cinema e la TV negli Stati Uniti, quindi il fenomeno dei film del cosiddetto Brat Pack, Breakfast Club o Ferris Bueller Day Off, che raccontano dello stesso periodo negli Stati Uniti, e vediamo come alcune cose magari si ripetono, però ovviamente la cultura e il costume siano profondamente diversi. Beh, certo, sì, in America se vedi il film tipo La febbre del sabato sera, li vedevi che questi gruppi in qualche modo avevano un abbigliamento costante, un modo di operare, di fare, uno slang, però era di un altro genere, di un altro tutt'altro, ma c'erano anche lì dei gruppi, delle cose, certo, che avranno avuto delle loro differenze. Chiaro che noi in Italia sicuramente avevamo un riflesso, secondo me, americano anche abbastanza marcato su determinate cose. Beh, inglese e americano. Inglese e americano, prima più inglese, poi probabilmente più americano, se vogliamo dire, però sì, sicuramente. Invece in Germania non so chi cacchio hanno visto loro, perché veramente erano vergognosi, cioè, i tedeschi quando li vedevi. Ah, quell'epoca riconoscevi un non italiano da come era vestito subito, cioè immediatamente. Sì, ma quello ancora oggi è così. Di recente, sì, ma quegli anni proprio di più. Sì, di più, però anche oggi è così. Carlo mi sembra che abbia pubblicato ieri un link di un video di Terence Hill che va in una trasmissione tedesca del 77. Tedesca. Sì, sì. Cioè, però tra l'altro mi ha fatto rivalutare Terence Hill. Io quando l'ho visto dico, oh, guarda, questa assomiglia a una cifra a Terence Hill. E Carlo mi dice, no, ma no, è Terence Hill. Cioè, questo sapeva 3-4 lingue. Cioè, proprio, sì, no, sapeva il tedesco perché sua mamma è tedesca, ragazzi. Sua mamma è tedesca. Terence Hill è italo-tedesco. Okay. Comunque, ma guarda che quei due che erano curioso, dei geni, comunque non era curioso, cioè, lui era curioso il tizio che presentava, se lo vedete, tizio, com'era quello vestito. Che tu chiami tizio che presentava è uno dei presentatori più famosi di tutta la Germania adesso, esatto, però se tu lo guardi come era vestito, guardavo, dicevo, ma come cacchio sei vestito questo? Io guardandolo, ragazzi, se voi lo guardate bene, quello è Massimen Chavarren, cioè proprio è chiaramente Chavarren. Thomas Gottschalk, ed è l'equivalente di un Amadeus Mike nostro. Mike buongiorno. No, Amadeus, dai, una cosa così. Amadeus. Sì, un disc jockey famoso degli anni, il presentatore TV degli anni 80, che adesso è uno dei presentatori. Anche perché principali. Davide, Mike buongiorno non è mai stato così giovane. Cioè. Era per dire un Carlo Conti, un Amadeus, un Fiorello nostro. Sosseria, ecco, tipo. Sosseria, però vabbè, dai, comunque ok. Cioè, poi comunque hai citato, hai parlato di Terence Hill e Bud Spencer, che noi vediamo come attori bravi, bravissimi, ci piacciono tantissimo, ma tutti e due, in particolare Bud Spencer, erano incredibili. Cioè, sì, Bud Spencer è stato sportivo, olimpionico, recordman, sì, italiano, attore, pilota di elicottero e di aereo, ha fondato una compagnia aerea importante, la Mistral, che poi ha venduto, inventore. Sì. Lottatore, certo, di lotta, cioè, cose... Ma è un genio, non cioè, ci sono limiti, peccato, capito? Che era di destra, però fa niente, quello è un difetto che gli si perdona, dai. Però non si vedeva molto, non si sapeva, io non lo so, sapeva abbastanza adesso. E anche sì, la sua compagnia aerea che ha fatto stava fallendo, è riuscito a salvarla perché era amico di Berlusconi che gliel'ha comprata. Giri strani, comunque, vabbè, poi gli si perdona tutto perché va a Spencer, ecco. Esatto. Sì, diciamo che non era un personaggio io, che tu ricordi per la politica, cioè, nel senso, per quanto sia, no? Poi alla fine lo ricordi perché era lo zio Bud che prendeva schiaffoni tutti, e tu quando eri ragazzino li devi, basta. Certo, cioè, esatto. E vabbè, quindi io comunque c'era la posta, mi dicevi di fare, Simone. Abbiamo finito? La posta. Abbiamo finito, sì, cioè abbiamo finito la puntata. Io allora, prima di chiudere, volevo solo ricordarvi. No, aspetta. Comunque, io volevo dedicarvi questa cosa, dato che ne abbiamo parlato, e dato che secondo me, comunque, il grande successo di un fenomeno arriva quando c'è il fenomeno antagonista nello stesso meccanismo, no? Cioè il meccanismo, certo, del derby, no? Roma-Lazio, Milan-Inter, Commodore 64 Spectrum, cioè tutte queste cose, no? E ovviamente, se noi abbiamo citato i Spandau Ballet, no? Che poi alla fine erano il gruppo che in qualche maniera erano gli anti Duran Duran, no? Certo. Però certo, Duran Duran, la cosa bella è che, al di là che questa è una canzone che io ho sempre detestato, però se uno pensa ai Duran Duran, pensa a sta canzone. Calling on their perché poi questa canzone mi fa fare due riflessioni che vorrei condividere con voi prima di andare alla posta e quindi alla chiusura. Il fatto che quelli erano gli anni anche del fenomeno hooligan, se voi vi ricordate, e gli inglesi l'hanno pagata anche cara questa cosa, e che questa è la canzone meno wild boys che io abbia mai sentito nella mia vita, cioè nel senso non c'è niente di cattivo, di selvaggio in tutta questa canzone, cioè è proprio la canzone più mascherata, più tarocca, più finta, quindi adatta ai paninari se ci pensi, perché è tutta... Tra l'altro c'è anche l'Amiga 500 sotto, il pezzo è ta-ta-ta-ta-ta, cioè mi ricorda molto le sonorità da Amiga 500, insomma, quindi... Io ho un aneddoto su questa canzone che vi farà... Io mi vergogno ancora adesso, ma è così. Dai, vergognati insieme a noi, dai. Guarda, io... Per quanto noi eravamo filo americani, per no, tutto il periodo e per anche gli anni successivi, noi abbiamo sempre capito che dicesse Wall Boy, nel senso i ragazzi del muretto. Cioè, Wall nel senso di muro, e lei la cantavamo così, ce la dicevamo così, l'avevamo capita così e l'avevamo associata ai ragazzi del muretto, quali eravamo noi, che siamo stati anche noi in qualche modo ragazzi del muretto, dove ci trovavamo la sera sul solito muretto, e per anni è stata Wall Boys nel senso muro, e quando abbiamo scoperto che era Wild Boys ci siamo guardati in faccia e detto ma quanto siamo deficienti. Ma questo è Cinisello, immagino. Sì è Cinisello, cioè nessuno aveva il disco, avevamo registrato la cassetta, ci eravamo copiati a casa, nessuno sapeva il titolo, la sentivamo e ce la inglesizzavamo come la capivamo, e per noi era diventata Wild Boys nel senso muro, e quindi ce la siamo girata così per anni. Poi dopo quando abbiamo saputo il titolo ho detto facciamo finta di niente, non diciamo in giro che vabbè, tristezza. Le noi canzoni travisate, esatto, travisatissime. Poi noi eravamo inglesofoni, americanofoni, non capivamo una parola. Era quello il problema. Comunque bella o brutta, mo ditemi che ogni tanto se la sentite non la canticchiate assieme al ritornello, dai. Vabbè, ma perché è diventata nell'uso cioè, nel senso, e se tu prendi una canzone che oggi Radio DJ passa 15 volte al giorno perché ha deciso che quella canzone deve entrare nella tua testa, comunque deve entrare nella tua testa. Questo non significa che l'apprezzo. Mi viene da fare Wall Boys, però cioè sti cazzi, cioè, non l'ho mai amata io. Certo. È super commerciale, ovviamente. Sì, no, non mi dispiaceva, diciamo che sicuramente l'ho ballata in discoteca senza dubbio, problema, ma se guardi nella mia libreria di musica su Deezer o quell'altro come si chiama, quello verde, non mi viene in mente il nome dell'altro. Spotify. Nella mia libreria Spotify non c'è sta canzone. C'aveva 1000 brani degli anni 80, ma questa non c'è. Grazie a Dio anche, insomma, meno male. Qualcuno dice. Vabbè, allora andiamo alla posta. Cosa? La posta, ci sono due, tre hai messaggi. Lo stacco della posta? Non hai fatto lo stacchetto della non posta? Non ho fatto lo stacchetto della posta perché l'ho messa io la posta, ma poi mi sono dimenticato che c'era la posta. Quindi vai Carlo, leggi la cosa di Ulrich Anders, che anzi no, Roberto, dai, che è quello più fluente. Guarda proprio. Ci scrive Ulrich Anders. È riferito alla puntata dei robottoni, chiaramente. Sì, esatto. Che puntatone ipergalattico. Io di quando ero piccolo ho soltanto un vago ricordo di Mazinga Z su TV locali, ma parliamo di 80 inoltrati. Il fenomeno era già spento, l'attenzione spostata su altri lidi. Devo confessare che mi aspettavo un riferimento ad Astro Boy, ma evidentemente era fuori del focus. La puntata è stata così ricca ed interessante che mi è presa la fotta, non so cosa voglia dire, no. Me l'immagino, la fregola di recuperare varie serie storiche, e Amazon Prime Video mi viene in aiuto fortunatamente. Sì. Ho iniziato già dal Tanius e Gundam, e minchia, c'è già un abisso. Gundam era troppo avanti rispetto, troppo forte, troppo giusto, vedete, rispetto al resto, anche se certi topos ovviamente sono comuni. E facciamo rispondere Carlo, chiaramente, perché chiamato in causa. Diciamo anche che noi comunque l'abbiamo detto che in teoria l'elenco sarebbe stato eccessivamente vasto, no? Penso che l'abbiamo anche citato Astro Boy. Astro Boy era fuori focus perché non era un robottone, era un robot. Comunque grazie Ulrich. Sì, grazie per i complimenti, ovviamente, e come hai giustamente detto Astro Boy era fuori focus, ne riparleremo magari in una puntata dove parleremo dei cartoni giapponesi in generale, la faremo sicuramente molto più avanti questo punto. E poi Daltanius e Dangward, e Gundam, sì, la differenza si nota tantissimo, anche perché hanno 10 anni di differenza uno dall'altro, anche se noi poi li abbiamo visti, come si dice, abbastanza ravvicinati, ecco, come... Ma questo l'abbiamo già spiegato l'altra volta nella cronologia italiana, insomma. Poi c'era anche un messaggio che hai ricevuto tu, se non sbaglio. Sì, mi ha scritto Gianluca Lazzari, che ci fa i complimentissimi ovviamente sulla puntata, anche lui, di Robottoni. Ti ringrazio, lagrime, scrive ovviamente, per i ricordi. E poi parla del fatto che comunque anche lui si è portato nel tempo dei Robottoni e quindi ha iniziato a fare una piccola collezione di oggettini robotici, che a quanto pare collezionisti di questi modellini, quelli della nostra età, sono tantini, ecco, poi chi più chi meno, ovviamente nel nostro caso ovviamente ci sono gli esagerati tipo me, quelli un po' più nel tuo più caso tranquilli. Più che nel nostro. No, beh, conosco gente che è anche peggio di me, per carità. Beh, ma immagino di sì. Lui è peggio di me, esatto. E comunque anche Morris mi ha scritto in privato scrivendo: quest'uomo è una leggenda, riferendosi a te ovviamente, Carlo, che io sono leggenda. Hai spopolato. Tra l'altro, si stava ascoltando la puntata della scorsa settimana dei Beci di Videoludici, dove ti hanno dovuto sparare a un certo punto. Perché esatto. Ieri sera abbiamo fatto una puntata sui full motion video. Per caso mi sono messo a ascoltare, scusate, ma non ho resistito. Ho iniziato a scrivere 400.000 cose. Ho avuto timore, ho detto: calla, basta, è finita la trasmissione. Indovinate chi era l'altro che scriveva? Massimo il Gladiatore. Massimo il Gladiatore, sì. Beh, grande Massimo il Gradiatore, tra l'altro gli devo tirare l'orecchio a Massimo il Gradiatore. Comunque, detto fra noi, chiudiamo con il sondaggio, perché l'altra volta non ne abbiamo detto, in realtà l'avevo fatto per parlarne poi in puntata, però non l'abbiamo fatto, e giustamente a un certo punto dice la gente: perché devo rispondere ai sondaggi se poi non li caghi? Ed è carino, perché in realtà il risultato è anche un po' scontato, tutto sommato, però è anche carino riprenderlo, perché all'ultimo posto col 4% c'è Astro Ganga, perché secondo me la gente non lo conosce, ma come ti ho detto l'altra volta, più che altro anche perché si vedeva che era vecchio Astro Ganga, sì, rispetto agli altri. Sì, anche se io invece sono veramente molto affezionato, cioè, è bello. Sì, beh, certo, poi, è molto bello, molto bello. E con l'11% al penultimo posto c'è Mazinga, quindi non c'è questo grande amore, insomma, per anche per qui Mazinga. Perché è arrivato dopo da noi rispetto al periodo storico. Il 15% per Jig, e qui ragazzi, ma che è stato a Dio, non capite in cazzo. Qua è strano, cioè Jig di solito è sempre in cima tra i... esatto, 18% Goldrake. E di solito anche lui in cima. E niente, praticamente i primi due, cioè, sono con il 22% Gundam, ma questo era un po' scontato sta vittoria, e con il 30%, quindi proprio a mani basse, ha vinto Daden 3, ma perché Daden 3 secondo me anche lì è proprio un'affezione proprio empatica, no? Perché comunque era quello più che faceva ride, poi fondamentalmente. Sì, quello, penso, insomma, anche per il fatto che sia un gruppo molto virato sul sarcasmo e umorismo il nostro, e quindi ha vinto il robot che faceva più ridere, tra virgolette. Sì, sì, comunque me l'aspettavo come tipo di risultato, non mi aspettavo la posizione dei Jig, che insomma è abbastanza bassa, e invece mi aspettavo quella di Astro Ganga, perché mi rendo conto che secondo me tantissima gente non sa proprio di chi stiamo a parlare, insomma. Sì. Va bene, dai ragazzi, io direi che è stata una bella puntata. La prossima settimana tocca a Davide, che ancora non ha deciso, perché c'aveva un sacco di cazzi sta settimana. Aspetta, spieghiamo cosa vuol dire, perché noi ci siamo divisi l'arduo compito di trovare una volta a settimana, ognuno deve trovare il proprio argomento, che di solito è in un range di cose che già si è messo in testa, insomma. Però Davide viene con calma, no? Ma sì, se ho dei problemi mi verrete incontro, dai, so. Ma sì, ma se, però musica andiamo tranquilli, ma è infatti, ma sì, quello, cioè, vinici, ma musica, cioè, musica elettronica, tecnologia applicata, esatto, alla musica, cioè le tue esperienze, cioè quello è il campo tuo, ragazzi, insomma. Va bene. Gli anni 80 non sono un po' stati il boom della musica elettronica, poi, no? A voglia. Direi di sì. Sono nati, synth pop. Adesso synth pop all'epoca era magari appunto new wave, new qua, new là, ma comunque diciamo sì. No, che poi c'è stato il boom anche di tutti i vari, di tanti strumenti musicali, che oggi per esempio non c'è più questa realtà così come c'è stata in quegli anni. Io mi ricordo il sassofono che lo usavano tutti e adesso è sparito. Il sassofono lo usavano un po' negli anni 80 queste band però un po' più figose. Fausto Papetti. Sì, come no, non fa strano. In generale se senti la musica negli anni 80 ci sono molto i fiati dentro. Adesso sì, pian massimo. Sì. Io l'ho comprato e ho fatto anche ben due lezioni di sax. Grande, sax deve essere un casino. È ancora lì da 30 anni. Gli è partito l'enfisema e ha lasciato perdere. Insomma. Beh, io ho quello della Casio qua nel mio mobile. No, la Casio faceva i saxofoni addirittura. Quello elettronico. Sax elettronico. Ah, che schifo, cioè, proprio una cosa. No, era uguale come forma. Anche ho capito, ma è una cosa becera. Dai, lascia perdere. Ma noi eravamo elettronici, dovevamo fare le cose elettroniche. La roba elettronica, ragazzi. Hai ragione. Come il contadino elettronico col trattore elettronico. Meravigliosa, esatto. Puntata di Survival Hacking che vi suggerisco assolutamente di ascoltare. E niente, allora, prima di chiudere, vi ricordo che domani sera c'è una puntata di Ludico Forum totalmente dedicata al gioco di Umberto Parisi, che sapete che è uscito proprio ieri, l'altro ieri. Bellissimo. Chronicles of Innsmouth, The Mountains of Madness. E assolutamente dovete comprarlo, sta tipo a 14 euro su Steam, c'è ancora il 10% di sconto per chi lo prende adesso che è l'offerta lancio. Un bellissimo avventura grafica in pixel art, ovviamente con ambientazione Cthulhu e Lovecraft, che insomma non passano mai di moda. E però vabbè, comunque assolutamente ne parleremo accuratamente, quindi magari insomma state lì pronti che magari c'è pure qualche chiavetta. Insomma, il gioco lo dovete comprare, stronzi, però se magari parte qualche chiavetta per qualche amico in più, insomma, che magari alla fine ve la regaliamo così come tema. E invece vi ricordo di andare anche sul canale YouTube di Survival Hacking, oltre che ascoltare il podcast, perché è un canale che insomma, come avevo previsto io nella mia mente machiavellica, insomma, sta raggiungendo quei risultati che merita. E insomma, quindi fra un anno, due anni, Davide Gatti non ci rivolgerà più la parola, perché sarà diventato ricco. Sarà ricchissimo, avrà fatto avrà fatto i soldi con YouTube. Esatto. Se sarà così, ci sarete anche chiuderà voi. La SIAE. Andrà alla SIAE, se la compra la SIAE, esatto. e poi la chiude. Sono appena disiscritto dalla SIAE. Bravo, hai fatto bene. Noi non parliamo di SIAE perché secondo me è meglio che non ne parliamo. E quindi andate su Survival Hacking, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete i video, ma soprattutto tanti like, che sono le cose, e commentate, che è una cosa caruccia. Poi Davide vuole dire invece che sabato sera, sì. No, quando? Sì, esatto, sabato 27 marzo, cioè quindi questo sabato, c'è un'iniziativa di un gruppo di appassionati che si chiama Moreware Blog, che vuole festeggiare insieme a tutti i vari loro ascoltatori la piattaforma Arduino, che penso tutti conoscano, che è stata creata in Italia e che oggi, che sabato compie 16 anni, e si festeggia con una serie di interventi live di scuole, di associazioni, di appassionati, di professionisti, che faranno vedere ognuno con una decina di minuti un piccolo progetto di vari interessi per promuovere questo tipo di tecnica, di tecnologia, con dei piccoli tutorial. Sarà una cosa interessante, durerà un'oretta e mezza, ci saranno alcuni interventi più o meno carini, ci sarò anch'io alle ore 16, dove farò vedere un piccolo oggetto che voi avete già visto se avete visto i miei video, ma comunque verrà presentato in maniera un po' più caruccia, e partecipate, che comunque fa bene a tutti, come dire, quelli un po' interessati all'argomento, far parte di questa comunità di appassionati di Arduino che si condividono un po' le loro idee e la loro passione. Benissimo. Quindi partecipate. Benissimo. Vi darò il link, metterò il link adesso da qualche parte, vabbè, sì, ok. Quindi poi dopo alla fine comunque lo ricondivideremo sabato, che se no la gente se lo dimentica. Detto questo, io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in chat. Mi dispiace per i problemi di streaming, che speriamo domani con il team di Azzuracast, di Shoutcast, di risolvere, perché altrimenti dovremmo trovare veramente delle soluzioni. Stanno facendo degli aggiornamenti sul server, ogni giorno c'è un blocco dovuto a un aggiornamento, quindi insomma pensate, è come se fosse WordPress per loro, capito? Cioè non pensano al fatto che c'è una persona che paga e vorrebbe che il suo streaming fosse continuativo. Vabbè, ma comunque al di là di questo, io ringrazio e saluto, perché un po' di polemica fa sempre bene, Roberto Domaiuolo, che ha ovviamente sponsorizzato questa puntata e l'ha anche sorretta a dovere. Grazie a tutti e alla prossima. Ci vediamo la prossima settimana, Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, ci sentiamo presto e ci rivediamo presto. Davide Gatti, ovviamente, che abbiamo appena sentito. Ci saluto tutti, ci sentiamo sabato, ci vediamo martedì, mercoledì, ci sentiamo giovedì, siamo sempre in pista. Siamo sempre tra i coglioni, insomma, vabbè. Esatto. E da me Simone Pizzi è tutto, vi ricordo Quando Eravamo Futuro, lo trovate insomma più o meno su Facebook e ovunque, quindi cercateci e soprattutto iscrivetevi al podcast sui vari aggregatori. Adesso io vi faccio sentire la canzone di Lucio Dalla dedicata a Milano e poi c'è il brano della settimana e vi saluto, arrivederci. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milan e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale.